Penso di sì. Allora iniziamo, innanzitutto grazie di essere qui. Ogni sabato abbiamo un evento, ogni sabato c'è qualcosa, purtroppo la settimana si lavora, i sabati sono quattro, quindi tutti i mesi per quattro volte, meno male, come sanità c'è un evento. Oggi abbiamo organizzato questo evento medico soprattutto, orientato sul pediatra di libera scelta e sulla medicina di base, proprio per l'importanza che rivestono le sindromi rare. Parleremo di una sindrome importante soprattutto nella sua evolutività e soprattutto per le complicanze che poi porta non diagnosticarla all'inizio con sintomi precoci. Allora, facciamo un giro prima di saluti e di ringraziamenti perché qui c'è un lavoro e quindi oggi rappresento il direttore generale che si scusa di non poter essere arrivato in tempo perché ha un altro evento, sempre di medicina generale, da un'altra parte, per cui mi ha chiamato adesso, vi saluta e va ringraziata la ASL perché in realtà ha fatto anche sua questa iniziativa. Devo dire che il dottor Di Giosia è sempre presente, corre da un evento all'altro, per cui oggi l'abbiamo perdonato e umilmente lo rappresento io. Altro ringraziamento deve essere fatto all'Ordine dei Medici, dove, ecco, Mimmo, se viene un attimo, il dottor Annibale, che rappresenta il dottor Napolitano, così, un attimino. Perché quando ho deciso insieme alle amiche e amici che mi hanno chiesto di organizzare questo, ho chiamato l'ordine e il dottor Napolitano è stato disponibilissimo ad organizzarlo, accreditarlo e offrirci tutta quella organizzazione che vedete. E questo non è da poco, significa una sensibilità dell'ordine anche a queste patologie e di questo io personalmente ringrazio il dottor Napolitano. Buongiorno a tutti, dunque, io mi chiamo Mimmo Annibale, sono pediatra di libera scelta e faccio parte del consiglio dell'Ordine dei Medici. Quindi sono stato incaricato, sono qui sia come partecipante e sia come incaricato dal dottor Cosimo Napoletano, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, a portare i saluti e gli auguri di buon lavoro a tutti quanti. Dunque, l'Ordine dei Medici è stato sempre molto attento per quanto riguarda la formazione del medico, tant'è vero che ha un public provider per l'accreditamento ICN e organizza parecchi corsi di formazione che possono essere facilmente visibili sul sito dell'Ordine. Allora, quando ho presentato appunto la domanda di Paolo Calapiore per l'accreditamento all'ICN e all'Ordine Medici, al Consiglio dell'Ordine non c'è stato nessun tipo di obiezione. Due, perché per gli illustri oratori che oggi sentiremo, sia perché è una malattia, una sindrome molto nuova, molto sconosciuta da medici, che praticamente ci troviamo, e soprattutto noi pediatri, ci troviamo praticamente ad affrontare quasi quotidianamente queste forme di neuroinfiammazione. Quindi il taglio anche pratico di questo corso ci aiuterà a conoscere, a prendere coscienza che esistono delle malattie neuroinfiammatorie su base autoimmune e soprattutto capire appunto cosa fare, i centri di riferimento che sono pochissimi. Cioè noi pediatri ci troviamo perché sappiamo che è una sindrome che colpisce soprattutto un'età che va dai 3 ai 18 anni, quindi è molto cara ai pediatri. Spesso ci troviamo in difficoltà, sappiamo a chi mandare. Chi mandare sia neuropsichiatria infantile, d'accordo, ma a volte i sintomi sono così impetuosi. Ho avuto un caso la settimana scorsa, in Petruoli, che la madre è arrivata disperata, no? Cosa faccio? Cosa faccio? Tu lo conosci Angelo, mi diceva, è stato fino a ieri un angelo. Infatti, la famiglia doveva affrontare una miglia di sindrome neurologici che non sono pronti ad affrontare. Sappiamo tutti che insomma sono degli atteggiamenti ossessivi, compulsivi, sono i tic, fastidiosissimi, motori, vocali, insonnia, irritabilità. Questo per me si chiama proprio angelo, e da un giorno all'altro, ho iniziato proprio a dare di matto, a fare tutte queste cose. Quindi nell'augurare ancora di nuovo un buon lavoro da parte anche del Presidente e di tutto il Consiglio dell'Ordine, ci auguriamo un buon lavoro. Bene, allora adesso abbiamo un'altra struttura che ci ha dato disponibilità e ci ha dato supporto, che è il Comune di Giulianova, e rappresentato qui da Lidia Albani, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque io porto chiaramente saluti del sindaco Ivan Costantini dell'amministrazione comunale, do il benvenuto a Giulianova per l'ennesima volta, viene a dire, ai cari relatori che si sono messi a disposizione. Dunque questa iniziativa, per la quale ringrazio l'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo e l'ASL e anche PANS, PANDAS, MED, questa iniziativa diciamo che rientra tra le attività di sensibilizzazione che il Comune di Giulianova ha avviato per un anno fa, con un altro convegno organizzato dalla mia collega assessora Cica Cappelli. Dopodiché, grazie alla tenacia e alla determinazione di mia mamma, Dorotea Savini, abbiamo appunto deciso di promuovere questa iniziativa diciamo scientifica, quindi è un convegno proprio formativo, tecnico, rivolto esclusivamente ai medici. Il prossimo step sarà invece coinvolgere il mondo della scuola. Abbiamo già sensibilizzato le nostre dirigenti scolastiche, inviando loro una nota di presentazione diciamo, di questa sindrome, e con loro organizzeremo un convegno proprio per loro, che coinvolgerà in particolare i docenti, ma anche il personale educativo, quindi gli assistenti educativi, gli educatori degli asili e anche tutti coloro che a vario titolo nell'arco della giornata passano del tempo con i bambini, quindi anche mi viene da dire gli allenatori oppure gli educatori del loro scuola. Perché anche qui chiaramente l'intento qual è? È dare loro degli strumenti per capire e comprendere quali possono essere i primissimi campanelli di allarme e indirizzare quindi eventualmente le famiglie a fare, insomma, ad approfondire. E, peraltro, come diceva giustamente il rappresentante dell'ordine, è difficile per i medici di base pediatri poi indirizzare, perché essendo una sindrome raramente diagnosticata, come giustamente insegnato una bella, magari non ci sono specialisti pronti o preparati. Però devo dire che sul nostro territorio c'è un medico che ha insomma, raccolto questa sfida e ha diciamo, aperto, così si può dire, un centro, messo a disposizione il suo centro diagnostico per ospitare appunto gli specialisti, ed è il dottor D'Archivio che comunque mi sento di ringraziare. E non rubo chiaramente altro tempo perché dobbiamo assolutamente lasciare spazio ai relatori, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Allora, altra figura, diciamo, importante che ci ha aiutato in questa organizzazione, allora, è la Stefania, che ha fondato un portale importante che si chiama appunto PASPANDASMED e è mamma di una figlia diagnosticata con la sindrome di papà. Sì, ecco sì, dunque io mi presento, sono la Rossana. Ecco, sì. Dunque, io sono Stefania Alessio, sono una mamma che ha una figlia diagnosticata con ASPADA da ben 5 anni, quindi quello che diceva il dottore prima potete immaginare il percorso, e insieme ad altri genitori ho deciso di dedicarmi, appunto insieme ad altri, al canale medico-scientifico, promuovendo appunto laddove possibile corsi di formazione in presenza e di informazione medica scolastica sulle PAMS, perché per le famiglie sono davvero dei sintomi molto impattanti, e appunto con il contributo delle istituzioni, delle fondazioni. E invece il portale panspandasmed.info darà delle informazioni online medico-scientifiche, scolastiche, diciamo così, fruibili da tutti, no? Laddove non si può essere presenti con i medici. Ecco, questo perché appunto ancora troppi pochi medici si occupano di PANSPADAS, che è una malattia rara o raramente diagnosticata, così come i ricercatori. E da genitore so quanto sia difficile arrivare a una diagnosi e alle cure efficaci. È un percorso davvero in salita. Vorrei che sapesse che quando una diagnosi del genere entra nella vita di una famiglia, cambia tutto. Cambia il modo di guardare al futuro, cambia la quotidianità, cambiano le priorità. Poi lo leggerete anche se vorrete sul sito, no? Dove c'è proprio la parte relativa al caregiver, che è molto molto importante. Dunque, purtroppo molto spesso le diagnosi e le cure non arrivano per mancanza di conoscenza, con conseguenze devastanti. E oggi qui io sono portavoce di molti genitori, di molte famiglie che ogni giorno convivono con una realtà complessa, spesso invisibile e invivibile. Quella di una malattia rara, poco conosciuta ma profondamente invalidante. E come diceva il dottore, i bambini, i ragazzi che la sera prima erano perfettamente funzionali, improvvisamente non lo sono più. Questo comporta un dramma inimmaginabile, perché al momento esistono pochi medici in grado di essere efficaci. Quindi ci si ritrova noi genitori a navigare nel buio cercando punti di luce. Ecco, la vostra presenza mi rincuora, perché noi genitori speriamo che i punti di luce, per esempio oggi, potrete essere voi, medici professionisti, che decidono di approfondire tenendo fede al giornamento di Ippocrate, cioè il beneficio dei malati, studiando e mettendo a disposizione la vostra abilità e le vostre competenze. Allora, noi genitori abbiamo imparato che la differenza più grande la fa l'approccio multidisciplinare. Quando attorno a un bambino, una persona con una malattia rara, si uniscono più competenze, le cose migliorano. E l'incontro di oggi verte proprio su questo, non a caso. Io ho voluto loro, perché sono tra i pochi medici in Italia che danno risposte concrete ed utilizzano il metodo multidisciplinare. Abbiamo appunto voluto oggi riunire questi relatori perché sono in grado di fornire competenze e soluzioni efficaci e casi studio soprattutto. Ecco, noi genitori vi chiediamo di essere un po' come loro nell'approccio alle PAMS, che continuano a cercare, a studiare e ad arrendersi, ma soprattutto ad ascoltare con grande empatia, perché dietro ogni caso clinico c'è una storia, c'è un volto, ci sono famiglie in gravi difficoltà che hanno bisogno di essere rassicurate e prese per mano in un percorso non facile. Ecco, la vostra presenza, la vostra attenzione, la vostra disponibilità ad ascoltare è importante per iniziare un percorso insieme alle famiglie che incontrerete e che navigano nella disperazione. Voi oggi siete le loro ancore di salvezza nel futuro, perché le incontrerete o magari le avete già incontrate. Ecco, quindi nel frattempo vi informo che il governo Meloni, anche grazie al mio impegno, io ho incontrato la Premier Meloni nel 2023, lei ha aperto un tavolo di lavoro tecnico governativo, io ho potuto spiegarle quali sono le condizioni delle famiglie, avevamo mandato una lettera di una bambina che lei ha accolto e appunto ha chiamato me e alcuni altri genitori per capire, per approfondire. Lei ha aperto un tavolo, ha voluto aprire un tavolo tecnico, ci ha ascoltato, ha aperto un tavolo tecnico governativo che si è chiuso ad aprile 2025 con la relazione, diciamo, quelli del tavolo. Adesso è passato il tutto alla commissione LEA, per cui la commissione LEA sta valutando i paper che sono stati presentati dal tavolo. Per cui a nome di tante famiglie a questo punto vi ringrazio per il vostro impegno, per l'impegno che metterete in futuro, sperando appunto che la commissione LEA si esprima favorevolmente presto, così anche voi avrete più aiuti. Quindi vi ringrazio per l'impegno che metterete in futuro e per la vostra dedizione. Ringrazio Donatella che ha voluto fortemente, una mamma di Giulianova che appunto fa parte del gruppo PansFundasMed.info, che ha voluto fortemente questo incontro, no? Che ha coinvolto il dottor Calafiore e poi le istituzioni che hanno risposto positivamente. Quindi ringrazio prima di tutto i relatori che sono qui oggi, che non è scontato, e anche appunto l'ordine dei medici, le ASL e tutti, ecco. Per cui grazie davvero a tutti per la famiglia. Devo dire che, Stefania, non ho trovato grossi problemi con le istituzioni, non ho trovato grossi problemi con i colleghi, perché io da pediatra, da 45 anni che faccio pediatra, ma anche con i medici di famiglia che vedo qua. Cioè il territorio giuliese ha risposto completamente per intero. E questo, no, esatto, e questo per me è importante, ma è importante. Potrebbe essere un riferimento. Esatto, ma è importante perché sono convinto che i colleghi, che ringrazio ancora di essere qui oggi, hanno capito quello che abbiamo fatto. Cioè le sindromi rare, la diagnosi precoce è la base di una evolutività che si può applicare. Il riconoscimento dei LEA è fondamentale per poter dare alle famiglie di questi bambini il supporto legale che lo Stato deve dare in condizioni di riconoscimento dei LEA. Questo è un processo politico più che medico forse, però noi da medici possiamo creare questo diciamo, movimento culturale medico-scientifico che può anche in qualche maniera influenzare le decisioni di un tavolo tecnico politico. Questo è un pensiero misto tra medicina e politica. Beh, detto questo, ultima persona che devo presentarvi prima di lasciare la parola ad amici di tanti anni fa, attualmente ancora amici e colleghi che ho conosciuto ieri sera, è la dottoressa Cavucci, che invito qua. Chiara è la responsabile della neuropsichiatria, l'unità operativa semplice dipartimentale di neuropsichiatria della nostra ASL. Abbiamo lavorato tanti anni insieme e adesso penso che sia il fulcro, no? Perché come prima Mimmo ha detto, sì, ho il dubbio, e questo è quello che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo filtrare il dubbio, ma poi la diagnosi la dobbiamo confermare. E questa conferma abbiamo bisogno di Chiara, che ci fa un saluto, ma poi invito a moderare con me perché ho bisogno di te. Grazie dottor. Sentite, sì, ringrazio il dottor Calafiore per l'invito e soprattutto ti ringrazio per la possibilità di accendere i riflettori su questa malattia, che come ho detto è una malattia molto rara che colpisce uno su 12 mila abitanti tra i 3 e i 12 anni di vita. E che spero che il governo riconosca come malattia rara, come hai detto tu, non solo per il riconoscimento dell'EA, ma per tutto anche l'avvio di politica della disabilità, della 104, che dovrebbe essere un pochino più rapido per permettere anche alle famiglie la possibilità di avere dei permessi per occuparsi del lavoro di questi ragazzi e in alcuni momenti avviare il più velocemente possibile anche la possibilità di attivare a scuola il sostegno, un assistente educativo quando necessario. Molti saluti della mia cooperativa, di tutta la mia squadra, non sono il fulcro, sono solo la allenatrice, neanche il mister di una squadra che sta lavorando con grande fatica. Adesso purtroppo siamo in carenza di mezzi, da 6 siamo passati a 3,5, quindi chiediamo scusa per le liste d'attesa, ma ci riprenderemo. Anche il cambio dei medici in realtà comporta a noi un rimaneggiamento, però siamo abbastanza impegnati nel territorio di Teramo. Ovviamente abbiamo 10.000 pazienti in carico tra questi sicuramente ci sono passati sott'occhio delle PANDAS. Siamo meno bravi sicuramente a conoscere le PANDAS, quindi oggi sarà interessante anche sentirvi. Attualmente noi ci siamo appoggiati al servizio di Chieti, con la stessa Breda, mi piace anche salutare, e ai colleghi del Collegio di Umberto I, ma semplicemente per conoscenze dirette che abbiamo con la nostra formazione. E al riguardo sono molto contenta dell'incontro di oggi, ma sono contenta anche perché mettete un po' al centro, perdonatemi di dirlo, la figura del pediatra, perché quello che noi stiamo iniziando a notare è che l'invio alla psichiatria infantile non deve essere solo un invio, la prescrizione più impegnativa. Chiediamo l'inquadramento a volte di alcuni pazienti, anche dal punto di vista del pediatra, che in alcuni momenti anche degli elementi maggiori di noi di riconoscere alcune sindrome che è una causa organica, e vi chiediamo anche un contatto diretto più stretto con noi. Vi faccio un esempio: noi abbiamo attivato, siamo attivi ormai col progetto NIDA, e abbiamo aperto la possibilità di ampliare al progetto NIDA anche il monitoraggio stretto dei bambini tra 0 e 36 mesi, per avere poi un invio e una presa in carico immediata, però ancora rimane un po', secondo noi, ancora c'è poco la rete di un pediatra, nonostante le nostre mail, nonostante insomma, i nostri telefoni, chiunque di voi che dovrebbe avere il mio cellulare. Vi chiedo di telefonarci sui pazienti, noi pure ci impegneremo di più a chiamarvi, perché per esempio sulla PANDAS e la PANS, secondo me, è importante che ci aiutiamo tra psichiatri e pediatri per avere una diagnosi più corretta, una diagnosi differenziale più giusta. Non vi rubo più tempo. Tocca a me presentare, quindi. No, aspetta, immagino lo devo presentare io perché è un amico, poi gli altri li presenti tu. Okay. Allora, bene, grazie Chiara, ma ecco, Chiara ha messo il punto anche su un concetto fondamentale che è quello di rete, no? E questa è l'altra cosa importante che dobbiamo fare. Tutte le patologie uditive, tutte le patologie dubbie all'inizio, se arrivano ai centri specialistici, ma io parlo anche di un'allergia che capita da veterani, con un'indicazione specifica di dubbio e una relazione, o con un contatto diretto, qui ci sono dei colleghi della medicina di base con cui parlo regolarmente, se hanno dei dubbi, come dice Chiara, mi chiamano. Ma è fondamentale poi per gli specialisti poter poi orientare in base al dubbio, al sospetto, all'analisi fatto dal medico di base, dal pediatra di famiglia, che è fondamentale, l'approfondimento. Quindi è vero, e l'altro obiettivo era creare una rete, come ha detto Chiara ci stiamo pare riuscendo, andremo avanti su questo. Detto questo vi presento il dottor Manzi. Allora, noi ci siamo conosciuti, penso, 35 anni fa, non mi ricordo, perché tutti e due dovevamo fare gli istruttori IRC, perché l'hobby che ci ha unito negli anni era appunto l'emergenza. E poi questa cosa, ognuno di noi ha fatto il suo percorso, lui è rimasto alzato un po' in pronto soccorso, eccetera, quindi ha una visione emergentista della sua vita professionale, perché è rimasto in quel settore. Io ho vagato un po' da pediatria all'ecologia, ma la passione è rimasta sempre. Abbiamo fatto, qualcuno di voi l'avrà visto, una max emergenza di protezione civile pediatrica in questi ultimi 3 giorni. Ne siamo usciti con le ossa abbastanza rotte, noi fisicamente, i bambini tutti bene. Abbiamo evacuato la scuola agli amici, se con i bambini elementare, che sono stati bravissimi, attori nati, truccati, eccetera, eccetera. Quindi questa passione c'è rimasta. Poi ognuno di noi ha approfondito, no? Io ho la psicologia e lui ha altre cose, quindi per me è un piacere averlo ritrovato qui dopo anni che non ci vedevamo, ed è un piacere dargli la parola. Ok, allora mi devo mettere comodo, non c'è un puntatore, vero? Non c'è, ce l'ho, il se puntatore volete... dovrei averlo in macchina. No, ma io ce l'hai? Altrimenti ce l'ho. No, ma quello però non so se... che quello abbassa, no, ma quello non è un puntatore, abbassa. Previsto parlare da parola. Però se non va preso, tu comincia, che io ce lo dovrei avere. Ah no, ma vuoi quello per lo slide? Quello del slide, sì. Aspetta che non so se... sì, sì, ce l'ho. Ah, ma adesso lo posso mettere. Adesso te lo si e poi se lo mettiamo qui, se lo metto più Paolo. Attendo però che il cavo non allora, no, no, ma te lo sistema, guarda. Per andare avanti... Vabbè, mettilo là. No, faccio. Questo e lui ci parla un discorso pediatrico. Tanto devi metterti le tue sniper. La mia, dunque. Ok. No. Qualcuno ha delle. Non ho le pile però. Micro? Avete mini stilo 2? Vabbè, va intanto. Niente, comincia, mi dispiace. Sì, sì. Mi dispiace. Allora, sei dunque, allora provando avanti così. Allora, intanto ringrazio Paolo per la presentazione, ringrazio l'Ordine Medici Teramo per l'invito, ringrazio l'Associazione dei Genitori. Allora, io ho pensato praticamente di iniziare da un po' di storia praticamente. Perché, allora, è importante per fare un po' di quello che è successo. Allora, nel 98 praticamente c'è una dottoressa, la dottoressa Svito, che fa un bellissimo lavoro che viene pubblicato sulla rivista americana di psichiatria. Allora, questo lavoro è un po' rivoluzionario perché viene dimostrato per la prima volta che i bambini che dopo un'infezione acuta da streptococco hanno avuto dei disturbi neuropsichiatrici. Quindi è una rivoluzione concettuale, cioè è una grande rivoluzione, e quindi per la prima volta viene associato questo, cioè questa associazione tra questo è il lavoro praticamente della parte sulla rivista, questa è la professoressa Svito, praticamente, che è del National Institute of Mental Health di Bethesda, e da allora poi si apre praticamente una si crea una consensus conference internazionale americana. Questa sono i componenti dell'altissimo livello delle varie università, dei vari ospedali americani, e si crea questo grande interesse per questa nuova, diciamo, disciplina. Allora, partiamo dalla definizione. PANAS è praticamente, ci sono varie definizioni, è una, un disturbo neuropsichiatrico di origine autoimmune che insorge dopo l'infezione da streptococco. Però non è sempre così, ci sono anche casi in cui non è lo streptococco che è la causa di questi disturbi, ma tutti gli altri virus possono portare a questo tipo di disturbo. E poi quindi i trigger possono essere vari, e specificamente la PANS, praticamente, che è l'insorgenza improvvisa di un disturbo neuropsichiatrico, può avere un'origine infettiva e quindi dallo streptococco, ma nessuno è escluso, voglio dire. Possiamo individuare la borrelia, il micoplasma, l'herpes, la mononucleosi, il parvovirus, cioè non c'è nessun virus, nessun microbo che non possa scatenare la PANS. E poi quelli di origine non infettiva, che stanno assumendo un'importanza fondamentale alla luce di quello che sappiamo ormai sui disregolatori endocrini. Io ci metto da questi quello che uno dei che è stato individuato principalmente, che sono le micromaterie di plastica. Questi micromaterie letali siano presenti nell'antimaterno e nel liquido amniotico e che possono interferire bloccando il recettore della dopamina. Il blocco di questo recettore impedisce la comunicazione tra recettore neuronale e neonato e fa quindi predisporre praticamente a volte proprio questo tipo di. Però questi sono lavori ancora del futuro. Allora, quando una mamma mi chiede, sì dottore, fatemi capire una cosa, ma che cos'è questa avanzata? Cioè, fatemi capire in poche parole semplici. Io utilizzo questo tipo di definizione, è per me, cioè per dire, è una neuroinfiammazione autoimmune post-infettiva che è secondaria ad una disregolazione del sistema immunitario che è dovuta a sua volta o a una base epigenetica o alla disbiosi, quindi all'alterazione del microbiota intestinale, e quindi praticamente è caratterizzata da un'alterazione dell'asse intestino cervello. Questo tipo, diciamo, di disregolazione comporta, dopo un'infezione in questi bambini, la produzione di autoanticorpi. Questi autoanticorpi attraversano la barriera metocefalica e attaccano i ganglia della base e possono portare vari tipi di sintomi, come vedremo magari fra poco. Bene, quindi questo è quello che succede, quindi non tutti i bambini, in bambini che hanno una disregolazione che non lo puoi sapere prima, chiaramente, perché sono cose che poi si verificano praticamente. Allora, è stata riconosciuta a livello internazionale dall'OMS e questo è il codice che è stato assegnato dall'OMS. Quindi il problema è che, come sapete, quando c'è una nuova classificazione delle malattie, gli stati membri dell'OMS dovrebbero adottare, cioè i governi dovrebbero adottare, è quello che noi stiamo facendo grazie anche all'aiuto dell'associazione dei genitori, praticamente per cercare che sia riconosciuta anche in Italia. Allora, però il modo migliore per capire cosa è la VADAS è parlare della clinica, cioè un paziente ha un caso clinico. Questo è un caso che io che è molto molto illuminante, è la storia di Biagio. Biagio è praticamente un bambino di 12 anni, è sempre stato bene, cioè tranquillissimo, normalissimo, bravo a scuola, vita sociale normale, bambino come tanti altri bambini. A un certo punto incomincia ad avere un episodio febbrile, febbre molto alta, quindi l'8 novembre praticamente, dopo 3-4 giorni di febbre, la madre nota che per la prima volta piace una cosa strana. E che cosa fa? Cioè si mette in piedi sulla sedia e fa dietro l'orchestra. Ma voglio dire, ma pensa che stia scherzando e gli invita, piacciola. Non mi fa impressionare, perché fai così? Ma Biagio continua ed è convinto che è il l'orchestra. Poi inizia a fare anche altre cose strane. Muove le mani sulla pianoforte, ma non c'è il pianoforte. Inizia praticamente ad avere una serie molto molto forte, passa giornate intere, ore intere sulla. Aspetta, vediamo se lo ok, perfetto, ok. Questo va a andare sul perfetto, perfetto. Allora, le sue condizioni peggiorano drammaticamente, vedete, inizia ad essere assente, sguardo fisso nel vuoto, estraniato, la mamma nota una cosa importante, che ha le pupille molto dilatate, è confuso, praticamente come se avesse avuto un'involuzione autistica, e quindi dopo alcuni giorni è fatta diagnosi di polmonite. E facendo l'esame del sangue si scopre che Biagio ha la mononucleosi, quindi più si deve inizia quindi terapia antibiotica con argomenti per la polmonite. Ok, allora dopo la polmonite mi sembra pure migliora, Biagio migliora e quindi praticamente è in condizione di tornare a scuola. Ritorna a scuola, però dopo alcuni giorni praticamente ripiombo praticamente negli stessi sintomi, anzi questa volta ancora più gravi. Inizia ad avere tic facciali, ipercinesie, movimenti strani del corpo, inizia ad avere anche una strana di tic vocali, inizia ad avere un'ansia di separazione incredibile, inizia ad avere pronuncia frasi incomprensibili, è ossessionato dagli oggetti, li conserva, li espone a casa, voglio dire, non è più capace di fare dei calcoli, cioè la situazione diventa drammatica. Quindi Biagio è costretto per questo motivo ad abbandonare la scuola. Chiaramente inizia un percorso di ospedalizzazione, viene ricoverato a Santo Bono, nel reparto di neurologia e neuropsichiatria, e Biagio è completamente estraniato, non riesce ad avere un colloquio normale con la neuropsichiatria infantile, è assente, la mamma è dimostrata di accudirlo come un bambino di 3 anni, cioè deve lavarlo, lo deve imboccare, lo deve vestire. Non vuole sempre stare a letto, non vuole scendere a letto e ha paura anche di passeggiare nel corridoio dell'ospedale. Quindi la situazione è veramente drammatica. Viene sottoposto, viene proprio scannerizzato, come si dice, diciamo, in ospedale, fa di tutto di più, tutti gli esami, fa pure fare il gastroscopio negativo, il tasso non è rilevante, l'EEG è normale, l'ECG è normale, l'equadome è normale, il TAC è normale, risonanza magnetica è tutto nella norma, è tutto, tutto, piace, è tutto regolare. Sono molto molto confusi i colleghi che lo seguono, praticamente dopo viene dimesso una diagnosi di soggetto psicotico. Però la madre non si arrende, viene dimesso con la prescrizione di psicofarmaci. Ma la madre non si arrende, lui è stato un bambino normalissimo fino a quella benedetta febbre d'alto. È stato un bambino veramente, non aveva nessun problema, aveva nessun problema prima, anche quando era più piccolo. Quindi non si arrende e quindi allora va praticamente all'ospedale Famiglia Gesù di Roma, dove viene guardato per 2-3 giorni, sì. E anche in cui la diagnosi, la mamma è molto delusa, la diagnosi è sempre la stessa, un soggetto psicotico. Quindi praticamente la madre però non si arrende ancora e va alla Stella Maris di Pisa, famoso istituto neurologico, e qui praticamente noto una cosa strana, che avevo questa infezione, non credo ci sia questa correlazione, però di fatto la diagnosi è sempre la stessa, purtroppo vi ha un soggetto psicotico. Allora, la madre, allora, è veramente, voglio dire, non si vuole arrendere, e quindi si rivolge al suo pediatra di famiglia, cioè al suo pediatra di un amico pediatra, il suo pediatra che è un collega dell'ospedale di Ischia, diciamo, il quale dice: guarda, fai una cosa, io non so che dirti, c'è un consulto di un collega che si occupa di cose strane, si sta occupando di questi bambini che hanno queste problematiche, vedi un po' se lui, se che cosa ne pensa. Allora, quando viene da me, praticamente, ecco qua, allora, dalla anamnesi di viaggio, ovviamente c'è un fondato sospetto di una neuroinfiammazione a immune quasi infettiva. Ha avuto la mononucleosi, ha avuto la polmonite e poi è entrato dopo. E quindi voglio dire, ha un'analisi molto molto semplice, molto banale, la correlazione è precisa. C'è una precisa correlazione tra l'insorgenza dei disturbi neuropsichiatrici e l'infezione coleotto. La mononucleosi, che vuole dire degli agenti, insieme a tanta crisi, veramente più grave, ovviamente. E quindi io inizio il protocollo di base, quello proposto dalla Consensus Conference americana, che prevede di dare l'augmentin, quindi la morfina acetoacrilato, per un mese. Poi faccio iniziare appena possibile, as soon as possible, appena arriva la penicillina, faccio iniziare la penicillina praticamente, e poi do l'antinfiammatorio usando il ibuprofeno inizialmente, aggiungo alcuni integratori, agisco anche sulla dieta, evito di giocare con i videogiochi che possono eccitarlo. Allora, quello che mi meraviglia è che dopo alcuni giorni la mamma mi chiama e mi dice che il viaggio non ha più sintomi. Cioè, una cosa che mi meraviglia, prima io che la mamma, mi meraviglio molto, insomma, perché è uno dei primi casi in cui ho avuto una risposta così immediata. Però mi meraviglia molto questa cosa. Quindi continuo a chiaramente la terapia, e poi visto che le cose vanno bene, dopo 2 anni circa di terapia iniziamo lo svezzamento secondo sempre il protocollo previsto dalla Consensus Conference americana. Quindi praticamente, e quindi dopo 2 anni, nel periodo estivo praticamente, quando non c'è più sintomi da ormai un paio di anni, viaggio per spendere la terapia. Allora, quest'anno ho rivisto viaggio praticamente, e mi ha comunicato che si è diplomato al liceo classico, è stato l'unico la sua classe del massimo di tutti, quindi piatto, ma meno completamente guarito. Questo vuol dire è stata una bellissima soddisfazione, non sempre è così purtroppo, non sempre è così, ci sono dei, stranamente è un mistero perché alcuni ragazzi rispondono bene alla terapia, ed altri invece non rispondono bene, alcuni hanno alti e bassi, e alcuni, io dico sempre, un 40-50% guariscono, un 20-30% convivono con alti e bassi, ma migliorano, però convivono con questo che facciamo con peggioramenti, e poi c'è una parte, un 20% che purtroppo ha una forma grave, quasi di encefalite autoimmune, che chiede a rendere cose molto più complicate. Del resto, noi pediatri sappiamo benissimo che c'è stata una correlazione tra disturbi tra neurologici e lo stesso protocollo, perché nel criterio di Jones, che però la teorematica, la teoria praticamente insorge dopo, anche dopo la differenza è che non insorge subito, ma insorge anche dopo da 8-9 mesi in poi rispetto praticamente. Alcune cose le sorvolo perché sono, diciamo, anche nella teoria c'è un disturbo ossessivo compulsivo di origine. Allora passiamo veramente ai sintomi, perché la cosa importante è che il riconoscimento precoce, no? della condizione. Questa è una cosa in cui praticamente è fondamentale per i pediatri, anche di libera scelta. Diciamo che c'è una serie di sintomi praticamente, che vanno dall'ansia, di separazione, al disturbo positivo, al disturbo ossessivo compulsivo, ai disordini alimentari, all'aumento dell'aggressività, ai tic, ai disturbi del sonno. Però vediamoli ora, vediamoli vedere. Allora, vi dico, se 10 anni fa un bambino da me con i tic, no? Andiamo a un lavoro, io ho detto, oh, se non mi ho fatto una transitoria, poi passa, cose che capitano, ovviamente non è. E quindi la lei semplicemente liquidato, dicendo, diciamo, non mi preoccupate, sarà una cosa del genere. Quindi chiaramente ora il mio atteggiamento è molto molto diverso, voglio dire, cioè, da quando c'è questa nuova nozione praticamente, questi sono i vari sintomi che possiamo avere, cioè, di movimenti anomali in questi bambini. Poi c'è il problema però enorme del disturbo ossessivo compulsivo che è di varie origini praticamente, quindi le ossessioni per qualsiasi tipo di, diciamo, di cosa, i rituali che questi ragazzi attuano, che a volte rendono invalidante la vita di questi bambini e, voglio dire, che creano a volte una vera sofferenza familiare. La cosa più grave di questa malattia, cioè di questa condizione, è che è il vissuto di sofferenza dei bambini, dei ragazzi, ma delle famiglie, cioè fondamentalmente la solitudine sociale che questo tipo di condizione crea, perché non siamo preparati a gestirla, non è riconosciuta, c'è praticamente c'è la rabbia dei genitori per essere a volte anche, come dire, non considerati dalle strutture. La cosa gravissima in assoluto è che tutto l'accademismo universitario italiano non crede nella Mazzanandas, non pensa che esista, che è una cosa gravissima, e questo ritarda le diagnosi, questo fa in modo che praticamente che ci sia stato, c'è un ritardo notevole nella ricerca sul tipo di, diciamo, una ricerca proprio clinica, di laboratorio, che viene a essere fatto obbligatoriamente in centri di alto livello, come quelli universitari, ma purtroppo questo è un campo, cioè una condizione amara, bene? Vedete, questo è un bambino, vedete, un ragazzino ben iscritto nel gruppo, ma non ha mai fatto cose strane, l'ultimo periodo, forse perché preoccupato che gli siamo in terza vita, ha cominciato a pregare. Una famiglia normale, però a un certo punto il bambino inizia a pregare, a un certo punto ogni minuto vuole pregare, quindi una vera e propria possessione. Quindi questo è un esempio di tanti altri tipi di cose. Poi ci sono vari altri tipi di ossessioni, la tendenza a mettere a maniacare, a creare ordine, la tendenza, mi sembra qua, dopo questa immagine ho pensato che anche mia moglie avesse la palla, perché sicuramente, cioè, io se sposto un colore, lo metto un altro colore, mia moglie non l'ha cambiato, scusa, ma perché? E da no, il verde qua, il rosso qua, il blu qua, insomma, se lo metto così, no, io a volte disordinatamente lo metto così, vado a rivedere e lei l'ha cambiato, perché se non lo cambia, la dovrebbe, la moglie la panza sicuramente. Quindi c'è un, ormai provato che c'è una neuroinfiammazione. Una cosa molto critica che si può, bisogna chiedere sempre, se il bambino non ha per caso una ipersensibilità ai rumori, a volte non sopporta i rumori, anche quelli banali, così come il disturbo oppositivo o provocatorio è esagerato, cioè non una sempre così, ma dopo diventa così, le fobie a volte sono normali per i bambini, però alcune sono esagerate. Quindi i pensieri intrusivi, negativi, i pensieri che occupano la mente, cioè un pensiero che occupa la mente, per cui il bambino è in balia, diciamo, di queste. E così come la DHD quindi è una, con tutti gli aspetti, l'ADHD, difficoltà di concentrazione, la difficoltà, cioè la iperattività, la impulsività, qui sono bambini che a volte a scuola hanno grandissimi problemi, perché poi il capitolo scuola è un altro capitolo incredibile di vergogna, perché come molti insegnanti, ma forse anche non educati, affrontano questo problema. Disturbo ansioso, vari tipi di ansia, appunto sempre le allucinazioni, la povertà del linguaggio, la perdita di socialità, la perdita della capacità di relazionarsi, della comunicazione, le sbalzi di umore, i pensieri suicidi, nei casi più gravi, la depressione, cioè vuol dire tutto, vuol dire un po' di sintomi ovviamente che gravi. Una delle cose più strane è il mutismo selettivo, ma quindi a un certo punto non voglio più parlare, cioè tutto, però il mutismo selettivo come è stato definito. E così la disgrafia, la discalculia, una delle cose tipiche che le mamme mi portano praticamente le due pagine del bambino prima delle infezioni e dopo le infezioni. Prima delle infezioni tu vedi una bella grafia, scritta tutta lineata, tondeggiante, chiara, poi dopo tu vedi questa cosa. Sembra veramente un quadro astratto, quindi questa scrittura, questo rigo praticamente che salta, cioè la scrittura illeggibile, cioè questo è uno degli aspetti più comuni per mettere le disturbi del sonno, cioè la difficoltà di addormentarsi, ma anche i svegli notturni, e quindi poi tutto quello che appartiene all'aggressività, all'autoaggressività, all'eteroaggressività, fino agli segni suicidi purtroppo, e anche disturbi somatici. Questo è un capitolo interessantissimo per i pediatri, perché allora molte questi bambini vengono visitati dai neurologi, cioè un bambino fa pipì frequentemente, ma da loro, e quindi fa il primo esame delle linee, il primo cultura negativo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. La mamma mi ha detto: ho fatto 10 anni di linea cultura, ma ho fatto l'ecografia della vescica, dell'apparato coronario, non conosceva niente, anche io non dovevo fare in 5 minuti. E quindi questo è un disegno classico che viene sottovalutato, viene poco conosciuto. Quindi anche per esempio alcuni casi di empopresi, cioè di trattenimento delle feci, fanno parte, possono far parte del quadro sintomatico. Quindi ci sono anche altri sintomi che vengono rivisti da altri colleghi che non conoscevano la Mandas, poi ci portano ritardo della diagnosi praticamente. Così come disturbi dell'alimentazione, come la bulimia o l'anoressia, come appunto la depressione, la depressione, e ho avuto casi in cui c'è il tremore della parvorizzazione, cioè bambine, ragazzine che non vogliono più lavarsi, non vogliono più vestirsi, non vogliono più venire, e questo è molto molto comune. Noi abbiamo avuto una mamma mia in ospedale di 7 anni che non si lavava da 4 mesi, cioè quando in ospedale che non si faceva lo sciopero da 4 mesi, cioè vuol dire una situazione drammatica. Quindi è così, passiamo qui. Questo è più o meno il quadro più o meno variegato, complesso di vari sintomi che infatti ci devono un po' allarmare quando abbiamo questi bambini. Ma come si fa la diagnosi? Allora, questi sono i diagnostici del consensus conference, no? Che ha elencato della Mandas, appunto un disturbo ossessivo compulsivo, o dei TIC, l'inizio di sintomi prima della puberale, esordio con sintomi acuti dopo l'infezione, la correlazione temporale, questo è importantissimo nell'analisi, andare a vedere quando ho avuto l'infezione, questo è stato qualche giorno prima, qualche mese prima, anche qualche mese prima, e poi alterazioni neurologiche. Questa è l'analisi di PANS, un po' più varia, oppure solo sempre improvviso, e ci sono almeno due di questi sintomi, come l'ansia, la fragilità emotiva, l'irritabilità, l'aggressività, il più comportamento di regressione, diminuzione del rendimento scolastico, disturbi motori sensoriali, e la psicologia somatica abbiamo già detto prima, quindi c'è un quadro molto complesso. Però, allora, il concetto è che, allora, molte famiglie sono deluse, perché, allora, pensano che la Mandas sia una diagnosi grande sia basata su esami di laboratorio. Purtroppo non è così, perché la Mandas è una diagnosi assolutamente clinica, cioè non c'è un test, cioè non è come fai i sospetti di salmonellosi, fai il test, trovi il virus, fai gli anni dei ricerche e hai fatto diagnosi, no? Non è così, perché praticamente, perché la diagnosi, allora gli esami che vengono fatti alla base casa servono soltanto per dimostrare che c'è stato che ha avuto un'infezione, che questa infezione può aver provocato un tipo di disturbi, perché molto spesso alcune infezioni sono subcliniche. Cioè, un tu puoi avere la monocleosi, così ti pediatra, per benissimo, tu puoi avere un periodo di astenia, sei stanco, non hai le forze, semmai non hai avuto neanche la febbre, poi hai avuto la monocleosi in maniera subclinica, cioè soltanto con la stanchezza, no? E quindi va bene, fare la pesante lo scopo, se non scopri il tuo periodo là, arriva la monocleosi che può aver portato la monocleosi. Però fondamentalmente purtroppo non c'è una ora, la ricerca dei biomarkers, cioè di un marcatore specifico, particolare, io dico sempre come la ricerca del santo grado, cioè abbiamo bisogno di alcuni passi, Paolo, praticamente nel mondo di scienziati, che cercano di individuare praticamente un biomarcatore specifico, ma non c'è soltanto uno, purtroppo la neuroscienza ci sta offrendo vari tipi di biomarcatori, bene, poi ne parleremo. E quindi è una malattia, un altro aspetto, allora molto spesso le mamme vanno veloce perché il bambino, quando facciamo gli esami, risulta che l'80% dei ragazzi che vedo io non hanno nessun tipo di infezione in atto, gli esami sono perfetti, sono normali. Allora devo sempre spiegare ai genitori, guardi signore, che allora il concetto è questo, che lui ha sviluppato gli anticorpi quando aveva la malattia, però a un certo punto il virus o il microbo non c'è più, però gli anticorpi persistono e questi anticorpi fanno una cosa che non dovrebbero fare attraverso la barriera ematoematica, l'attraverso una trappola in quella base, però non c'è più l'infezione, se noi cerchiamo di tipo di non c'è più, è passata l'infezione, quindi in quel momento il bambino non ha nessun tipo di infezione alta, quindi però quel agente infettivo ha innescato l'autoimmunità e l'autoimmunità, voglio dire, è continuo, è persistente praticamente. Bene. Allora, una cosa che negli ultimi tempi ci può aiutare è la metabolomica, che è quella disciplina che studia la mancanza di nutrienti particolari che possono essere associate a malattie croniche. E quindi la individuazione di questo tipo di carenze, poi, per esempio, faccio esempio lo sereno, lo zinco o gli aminoacidi, può aiutarci nella individuazione precisa di una carenza che può essere associata a questo tipo di cronicità, e quindi questo potrebbe essere anche un campo di intervento. Allora, che cosa andiamo a dosare? Andiamo a dosare gli aminoacidi e i micronutrienti. Allora, perché è importante dosare gli aminoacidi? Allora, voglio dire, perché gli aminoacidi, ci sono alcuni lavori, questo è il lavoro della professoressa Gagliano, neuropsichiatra siciliana, che ha fatto alcuni lavori, vedete, ha dimostrato per esempio che in bambini con il superstituto del spettro autistico c'è una carenza di glicina, cioè nel campione ossidato da lei, che praticamente determina una compromissione delle trasmissioni di alcuni neurotrasmettitori. Quindi è stato individuato in questo lavoro della Gagliano che la glicina, per esempio, può avere un ruolo importante. Infatti una delle cose che io prima non sapevo è che poi da ora in poi vado a valutare. Così come è stato visto che nei bambini PANS c'è una carenza di triptofano, che anche questo comporta praticamente un'alterazione della disfunzione di questo recettore, che vedete è molto importante perché può determinare un'alterazione della comunicazione praticamente a livello cerebrale. Bene. Poi, per esempio, un altro aspetto importante degli aminoacidi, vedete che il glutatione, che ha un potente antiossidante, è fatto da tre aminoacidi, cisteina, praticamente la glicina e la glutamina. Se uno di questi tre manca, viene a mancare il glutatione, quindi dire cose di luce, il glutatione che ha un effetto molto importante, come vedremo, però non vorrei invadere il campo delle colleghe che poi dopo parlano di neuroinfiammazione. Quindi si determina, la mancanza di glutatione determina una instabilità perché non ha, viene presa la sua attività antiossidante, però questo penso poi sarà oggetto dell'intervento delle colleghe del lavoro. Quindi un'altra cosa importante da fare è andare a valutare appunto le carenze, la carenza di nutrienti, anche di ferro. Ora il ferro è importantissimo, perché se un bambino ha la pancia, ha una mancanza di ferro, non risponde, è un non responder, non risponde sulle caratteristiche. Perché che cosa fa il ferro? Il ferro viene l'ossigeno, e quindi l'ossigeno che arriva dal cervello tramite il ferro. Ma se tu non hai, se hai una carenza di ferro, quindi è difficile che possa riequilibrarsi anche con la terapia che viene fatta in fondo. Bene? Quindi è importantissimo andare a formare questo tipo di carenze. Un'altra cosa molto importante potrebbe essere quella di studiare l'autonomità. Ora dico anche un'altra cosa. Allora, tutti questi esami sono molto costosi. Quindi, voglio dire, è solo un peso per le famiglie insostenibile. Insostenibile, non possiamo parlare già di ricchi e dei poveri. Cioè, queste cose vanno fatte negli ospedali, devono essere garantite dalla struttura pubblica, cioè è l'istituzione pubblica che deve garantire, nei casi particolari, nei casi più gravi, un approfondimento diagnostico che consiste nel valutare tutti questi aspetti. Cioè, perché fare le citochine, fare sottopopolazioni linfocitarie, fare sottogruppi di immunoglobuline, fare tutte, non è una cosa che si può fare a modello privato. Voglio dire, perché i costi sono veramente sono incredibili. E quindi tutti gli altri dosaggi che si fanno specifici, no? Ora assume grande importanza negli ultimi tempi, abbiamo in base a alcuni lavori che sono usciti, gli anticorpi antiricettore acido folico. Abbiamo visto questi anticorpi sono presenti al di fuori del liquido amniotico e interferiscono a livello fetale perché bloccano praticamente il recettore della dopamina. Quindi abbiamo sempre dato alle donne in gravidanza praticamente l'acido folico, praticamente, che viene fatto ormai ordinariamente in ginecologi, no? Invece devo dare l'acido folico, perché l'acido folico è capace di impedire praticamente l'alterazione di questo recettore. Quindi è un'altra cosa che sappiamo che prima non sapevamo praticamente. Perché? Quindi questo è sicuramente negli ultimi tempi una new entry e entrerà sicuramente anche con questo esame. Entrerà, che è molto presente nei bambini anche sullo spettro autistico. Cioè, molte mamme mi hanno chiamato, molti miei pazienti, dottore, ho letto questa informazione, ho fatto il test, mio figlio è positivo, è un test nuovo, quindi praticamente qualcosa, ho detto, la ricerca sta facendo, così come l'endolasi neurale specifica, attenzione, questo è rilasciato per come marchio del tumore polmonare, però ci indica anche una lesione neuronale. Fondamentalmente, cioè viene indicato per indicare nei casi gravi di panza, quando c'è una cefalita comune, quando si è, cioè, il sospetto c'è stata una lesione neuronale, viene indicata proprio per vedere se il tipo di danno. Allora, e poi tutta la infettivologia, cioè la ricerca dei virus più importanti, del micoplasma, della borrelia, della bartonella, dei parassiti. Allora, molto spesso la parassitosi, quella più comune, è quella degli ustioni. E anche questa è una causa importantissima di mantenimento dell'infiammazione cronica, perché se noi a volte ci accorgiamo indirettamente perché aumentano nell'emocromo, aumentano le IgE, quindi quando vediamo le IgE aumentate, due sono le possibilità, o un bambino che ha le parassiti o un bambino che ha un'allergia, entrambe le cose vanno curate, perché anche un bambino allergico produce istamina, ora questa istamina è destabilizzante. Se tu non vai a bloccare l'istamina, i bambini hanno avanzata, se non diventano non rispondere, anche tu la terapia di base non rispondono. Quindi la terapia di base deve essere anche quella di andare a bloccare questi sono aspetti importantissimi. Così come poi andiamo nel campo super specialistico, degli anticorpi antineurone, vabbè, chiaramente non tutti vanno in casa, alcuni fanno il best di Down, ormai anche ho alcuni livelli di ricerca universitaria. Questo è il famoso panel del Cunningham panel, praticamente vedete l'antidopamina 1 che è correlato al sindrome di Sicarci, l'antidopamina 2 che è correlato al supermovimento e così, ma questo alcuni di questi fanno anche in Italia ora, però parliamo di un livello come di ricerca che può essere soltanto appannaggio delle università o degli ospedali di terzo livello, cioè delle pediatrici, va bene? Poi c'è il capitolo che però lo sfioro, perché poi ne parlerò la grande, le mie bravissime colleghe, dell'importanza che ha microbiota nella neuroinfiammazione, quindi sorvolo su questo. Perché succede tutto questo? Succede tutto questo perché saltano le barriere, cioè tu produci un anticorpo che attacca un microbo. Questo anticorpo non dovrebbe superare la barriera ematoencefalica, perché tutto nasce da lì. Che questo anticorpo a un certo punto attraverso una zona che non deve attraversare, perché la barriera ematoencefalica non deve essere attraversata dagli anticorpi, soltanto i piccoli nutrienti, sodio, potassio, ferro, tutti altri non te lo riporta per strada. E quindi ci sono tre ruoli importanti nella neuroinfiammazione: quello delle barriere, della microglia, del microbiota. Soltanto un cenno questo per non invadere il campo. Sappiamo che noi abbiamo quattro tipi di barriere, vedete, due sono a livello intestinale, la barriera epiteliale, le Dyne-Johnson, cioè gli enterociti, praticamente stretti, vedete, lì sono secchi, quando sono larghi. Ora, una Dyne-Johnson, una barriera di aperta, consente il passaggio di sostanze indesiderate dell'organismo, nel sangue. Cioè, che cosa sono qua, sono state? Dovrebbero essere eliminate con le feci, però sono microbi, sono miceti, sono agenti allergeni, antigeni vari, e che vanno in circolo, ma in circolo promuovono la proinfiammazione. Quindi, poi vengono bloccati in alcuni casi dalla barriera vascolare intestinale, che è la seconda forma di barriera, no? Quando saltano queste due barriere, ci sono altre due a livello cerebrale, cioè quella classica, la ematoencefalica e la barriera del presto coronario. Però su questo vi invito, questa è la classica barriera endocefalica, cioè gli astrociti, vedete, che avvolgono la cellula endoteliale, che a questo livello ha l'età di Johnson, la cellula endoteliale non è stretta per consentire un dialogo con l'interstizio, invece a livello cerebrale non è così, però questa è una cosa di cui parleranno. Un aspetto fondamentale lo riveste l'endotelio. Ora l'endotelio è una molecola fondamentale, cioè una cellula fondamentale per studiare la neuroinfiammazione. E abbiamo scoperto che è il principale organo endocrino del nostro organismo, è da qui che partono la gran parte di citochine proinfiammatorie che alimentano la vasculite e che quindi, voglio dire, consentono la rottura della barriera e l'ingresso del. Però questa è una cosa sono libri della Ricin in cui si parla di queste cose e vi invito a leggere perché sono veramente libri di divulgazione veramente molto molto molto belli. Quindi gli anticorpi non superano la barriera integra chiaramente, ma quando la superano attaccano inutile della base, abbiamo detto. Ora quali sono le teorie? La teoria prevalente è sempre stata quella del mimetismo molecolare, cioè che c'è una somiglianza tra il microbo e una struttura nervosa, per cui l'anticorpo ha avuto un ordine: tu devi attaccare chi porta il cappotto rosso. Guarda caso, il cappotto rosso lo ha anche praticamente una struttura nervosa, questo recettore, questo neurotrasmettitore, che viene attaccato. E praticamente questa è la teoria del mimetismo molecolare. Però è una teoria, ovviamente, quindi questo è uno specifico, questo determina l'attacco di un aumento dell'alterazione microcellulare intracellulare che porta a un. Quindi di fatto il cervello viene bombardato da questo che si chiama l'anticorpo canaglia, cioè l'anticorpo che fa il attacco praticamente. Quando l'anticorpo arriva nel cervello, però vorrei ora invadere la relazione della collega che vedo dopo, allora c'è la microglia che è la cellula immunitaria, che è quella che ci difende, cioè la cellula immunitaria del cervello. Ora quando c'è qualcosa di strano che entra nel cervello, cioè, come per esempio un anticorpo, la microglia lo considera come un estraneo entrato, lo deve attaccare, lo deve neutralizzare, e quindi la microglia passa da uno stato di quiete a uno stato di infiammazione. Lo stato di infiammazione che cosa comporta? La produzione di citochine infiammatorie. Questa a loro volta, incredibilmente, che hanno lo scopo benefico di neutralizzare un nemico, ma di fatto creano un'instabilità, perché aumentano la neuroinfiammazione. E qual è il problema di questi bambini? Che il passaggio dallo stato di quiete allo stato, di eccitazione dovrebbe essere transitorio, cioè dovrebbe durare poco. Invece questi bambini, la cellula della microglia continua incessantemente a produrre molecole infiammatorie. Okay? E allora si crea questo tipo di condizione. E allora, come io faccio sempre un esempio, io voglio chiudere la luce ora, quindi prendo l'acqua, l'interruttore, la luce non si può rimanere accesa. Allora devo chiamare l'elettricista, deve venire, deve cambiare la mascherina, deve cambiare i fili per chiudere l'interruttore. Bene. E questo è quello che succede. E ora stiamo studiando dei meccanismi per bloccare questo tipo di attività. Bene. C'è la teoria di Gallio, che è una teoria molto molto interessante. Gallio è attualmente il maggiore forza ricercatore sulla patologia avanzata. Allora, lui che cosa sostiene? Sostiene che noi abbiamo sempre cercato il secondo colpo alla gola. A volte non c'è la gola. Potrebbe essere il naso. Sì, diceva Carlo, potrebbe essere il naso il secondo colpo. E che cosa fa quando c'è il colpo sale il naso? Quando sale il naso, il colpo chiaramente evoca praticamente una risposta immunitaria, per cui molte cellule per bloccarlo arrivano nel naso. Però queste cellule che arrivano per eliminare lo secondo colpo, che cosa fa a un certo punto? Entrano nel nervo olfattivo e attraverso il nervo olfattivo arrivano al cervello. Quindi voglio dire, queste cellule come il pH 17, cioè arrivano nel naso per distruggere lo secondo colpo, ma a un certo punto prendono una via praticamente particolare, cioè entrano non nei vasi, ma entrano nel nervo, e il nervo olfattivo è la via attraverso cui può arrivare al cervello. Quindi a volte non c'è perché sia tutto il meccanismo che abbiamo prima illustrato sulla microglia, va bene? Questo è il riflesso vago spegno che io non conoscevo, e che vuol dire, che cosa succede? Allora, quando il nervo vago riconosce la presenza di livelli elevati di citochine, che sono di origine prodotti dai macrofagi, e quindi che cosa fa il nervo vago? Manda un segnale al cervello, dalla linza al cervello. All'interno del cervello i neuroni che trasportano questo segnale attivano neuroni in uscita che hanno lo scopo di bloccare la produzione di altre citochine da parte dei macrofagi della linza. C'è un meccanismo bellissimo che io ho trovato in un bellissimo libro che vi consiglio, che è La mente in fiamme. Chi è l'autore? L'autore è il direttore della clinica pediatrica di Cambridge, dell'Università di Cambridge. Lui ha fatto questo bellissimo libro e lui dice a un certo punto, dopo 30 anni di psichiatria, ho capito che la malattia mentale non si cura con i psicofarmaci. Perché queste sono persone che hanno neuroinfiammazione e quindi praticamente quindi si cura anche con i psicofarmaci, però vuol dire, purtroppo dobbiamo fare una revisione critica, per cui oltre agli psicofarmaci, lui dice, dobbiamo indagare il perché si crea questa vita neuroinfiammazione. Quindi questo è un bellissimo libro, però non è stato tradotto in Italia, sulla storia di questa bambina, della ragazza americana che ha avuto variamente una cefalita comune e vi racconta il suo mese della pazzia praticamente, è molto molto bello, è un vi consiglio anche di leggere, molto molto bello. Vediamo la terapia. Allora, terapie molto velocemente. Allora, la terapia si basa su tre aspetti, sui farmaci, sugli integratori e sull'alimentazione. Allora, farmaci, allora, abbiamo detto gli antibiotici, poi vedremo gli antinfiammatori, i FANS per cortisone, le immunoglobuline endovena, la plasmaferesi, gli anticorpi monoclonali, la psicoterapia cognitivo comportamentale e chiaramente i psicofarmaci. Ora, chi si occupa, come diciamo, di Transparence, perché si occupa di bambini, il nostro scopo è quello di, come dire, di scongiurare il più possibile il ricorso ai psicofarmaci, quando è possibile, per cercare di curare la malattia soltanto con gli antibiotici. Va bene? A volte è possibile, a volte sono indispensabili i psicofarmaci, infatti non li ho eliminati, li ho tenuti in considerazione, in alcuni casi gravi, contemporaneamente, bisogna fare entrambe le cose contemporaneamente, però voglio dire, fondamentalmente, li ho messi in ultimo perché il nostro scopo sarebbe quello di evitare il ricorso a dare un bambino di 7-8 anni di psicofarmaci. Perché? Allora, perché diamo gli antibiotici? Allora, questo sono i capitoli del Consensus Conference americano su questo lato, sulla terapia. Allora, ma perché diamo gli antibiotici a un bambino? Abbiamo detto prima che spesso non stiamo parlando più di un'infezione, hanno una reazione autoimmunitaria. E allora perché usiamo gli antibiotici? Perché per usare una mamma, vuol dire, perché diamo gli antibiotici a un bambino che non ha l'infezione? E allora io dico, possiamo dare, la domanda è molto molto giusta, molto opportuna. Allora, perché abbiamo scoperto negli ultimi anni che gli antibiotici non hanno un'azione soltanto antibios, antinfettiva, ma fondamentalmente hanno un'azione immunomodulante e immunosoppressiva. Tra questi, quelli principali che hanno questa azione sono la penicillina e la azitromicina, che hanno questa particolare azione immunomodulante. Bene. Per cui quando diciamo, non diciamo perché c'è un'infezione, per eliminare l'infezione, diciamo fondamentalmente per la loro azione autoimmunitaria. Bene. L'azitromicina, per esempio, vedete, è uno di quelli che noi più usiamo variamente, ha un'importante azione antinfiammatoria monoclonale, è capace di interagire sui endosomi, però durante il Covid c'è stata tutta quella polemica se usare o meno l'azitromicina, chi la usava, chi non usava. Io l'ho sempre consigliata, ben sapendo che l'azitromicina poteva avere in una malattia come il Covid, nel primo periodo di Covid, una cascata infiammatoria importantissima, poteva in ogni caso aiutare un po'. Perché, chi non risponde all'argomento può fare l'azitromicina, questo è un campo minato. Il perché? Ci sono bambini che rispondono a questo viaggio all'argomento e ci sono quelli invece che non rispondono, allora devi provare la sitromicina, allora poi non va bene, devi provare la cefalosporina, non va bene, voglio dire, alla fine io a volte faccio dei cocktail, mi rendo conto, io vado, faccio cose off-label, cioè sono cose che non sono scritte in un protocollo internazionale, ma io le faccio per aiutare i bambini, perché non posso dire se è efficace, non ha funzionato, io non so che dirle. Rivolgetevi a qualcun altro, ma io allora io provo e riprovo, e così provando e riprovando ho scoperto a volte che per esempio gli antivirali funzionano su alcuni bambini, che su altri bambini per esempio il famoso Bactrim che non usiamo più tanto noi ha funzionato, ma tutto il resto non funzionava. Ho scoperto che in alcuni bambini è fondamentale l'uso degli antistaminici, in altri gli antiparassitari, in altri quelli degli anticorpi, cioè vuol dire, mi sono fatto un'esperienza sul campo, lo riconosco, lo ripeto, ho fatto, cioè faccio cose che non sono scritte in nessun protocollo, però è vero che a volte aiutano, hanno aiutato. Allora, questo è il protocollo dei litri, questo è il protocollo ufficiale, poi non so chi le fa in altro modo. Però chi fa l'IVIC, io l'ho fatto così, l'ho fatto tante in ospedale, deve fare 1 grammo/kg di IE per 2 giorni consecutivi, per 2 volte al mese per 6 mesi consecutivi. Questo è il protocollo della Conference internazionale, perché è quello che ti dà la maggiore garanzia di successo. Non puoi fare praticamente una, poi le fai dopo 5 mesi, non funziona così. Chiaramente le IVIC sono costosissime, non le puoi fare privatamente, onestamente. Tutto se segui questo protocollo che è quello più che dà più garanzie di successo, non puoi seguirli. Così come sappiamo che è molto importante per alcuni bambini la palmafelsi, che alcuni dicono che sia più importante rispetto alle immunoglobuline. E qual è il futuro? Il futuro potrebbe essere quello degli anticorpi monoclonali, va bene? Secondo questi sono quelli che usiamo, quelli che abbiamo mutuato dalla terapia di altre malattie autoimmunitarie, no? In futuro avremo chiaramente dosando le citochine sappiamo quale potremo bloccare e Agallo sostiene per esempio che dovremmo cercare un anticorpo contro il TH17 che in America già c'è, ma non ancora in Italia praticamente, però anche lì non è che sono terapie, voglio dire, sono terapie importanti, hanno effetti laterali, devono essere fatti in ambiente sterilizzato, quindi tu devi avere un gruppo, un ospedale dove è riconosciuta questa patologia, dove si accetti di curare in quel modo, cioè questo è quello che dobbiamo nei prossimi anni dedicarci a questo tipo di... Poi ci sono alcune, per esempio, Patterson è un esperto di HIV e di long COVID che ha proposto di usare nella channel, che sapete, il long COVID ha avuto neurocovid che ha colpito particolarmente il cervello, quindi stiamo parlando di cose uguali, una neuroinfiammazione dovuta al COVID. Quindi lui dice perché non usiamo in questi bambini anche la terapia che abbiamo fatto nel COVID, e quindi propone di usare uno stabilizzante dell'endotelio, quindi un vasoprotettore, con un antivirale che abbiamo sempre si è usato in passato per il COVID. Quindi vuol dire, sono tutte idee sul campo che vanno considerate, in alcuni casi particolari vanno anche sperimentate, bene, vanno utilizzate. Io faccio un esempio veloce di quello che io uso, sto usando da alcuni bambini non risponde, i bambini PANS che non rispondono a niente, ho usato detto la ciclovir, che è un derivato della ciclovir, praticamente, sempre lo Zemitrex o altri nomi commerciali, ho usato gli antimicotici, perché molto spesso l'utilizzo di antibiotici può portare alla presenza di candida intestinale, quindi ho usato anche questo. Ho usato, se c'è una parassitosi subclinica che non si manifesta, a volte quando ho dato l'antiparassitario, molte mamme mi hanno detto, scusa, ma perché non hai dato prima? Quella presa è stata prima che mi denigrava, cioè cambiamo qui, io sempre noi navighiamo un po' a vista, cioè un trend che cambia di così, questo è, ho trovato più risultati con la bilastina che non con la spirizzina, come domani di stamento, ma questo è un altro mistero che non conosciamo, che non sappiamo che perché il nostro organismo. Così per esempio ci sono più lavori che dimostrano l'importanza del NAC, della gestione del sistema conclusivo, che noi usiamo come politico, però è un antiossidante. Allora, a volte uso l'entrastrogeno. Allora, perché uso l'entrastrogeno? Perché lo uso? Allora, abbiamo detto prima che ci può essere questi bambini una aumentata permeabilità, la sindrome da metà permeabilità intestinale, cioè il crocevamento intestinale, però le sindrome. Allora, che cosa succede? Che in attesa che un riequilibrio della flora batterica intestinale, del microbiota, possa far richiudere la Janssen, io ho un intestino ancora aperto. Allora che cosa faccio? Utilizzo un assorbente intestinale, che è quello che noi usiamo con chiave di diarrea cronica. Allora, io l'ho utilizzato in questi molti bambini perché è capace di assorbire praticamente degli antigeni, delle sostanze, tra virgolette, indesiderate, in attesa che si ripristini la barriera degli enterociti. E così a volte, misteriosamente, stranamente, mi dire, ha funzionato, lo ripeto, anche questo purtroppo non sono evidenze, però così come è importante l'uso di integratori, questo va velocemente, quindi la melatonina, dicevo, un capitolo, una lezione a parte per ognuna di queste, l'importanza di questi integratori, ma tutti gli integratori hanno dimostrato di agire su questo fenomeno, cioè interagiscono bloccando la proteina NFKB, che voglio dire, è una cosa super specialistica, però di fatto è quella che attiva la risposta infiammatoria, provocando a sua volta la cascata delle citochine. Quindi ovviamente così come è molto importante sempre la fisioterapia, così come è fondamentale la collaborazione con i neuropsichiatri, sempre. Cioè io non c'è un bambino qui, non dico se andate allo psichiatra, io voglio una relazione, dopodiché collaboro con lo psichiatra, decidiamo insieme qual è l'approccio migliore al bambino fondamentalmente. Bene? Quindi è fondamentale e così il futuro avrà un'importanza anche la nutraceutica, la fitoterapia sono fondamentali, parlerà dopo la testa Palazzi, vengo molto velocemente alcuni. Ma sarà l'oggetto della prossima generazione, quindi la percepina, il tè verde, la fecotiretianina, il cumino nero, cioè ci sono tantissime proposte che ci vengono dalla terapeutica, che a cui per esempio molti vengono da mamma, mi dico, dottore sì, sono andato a una cromata, mi ha dato questo e quell'altro, tutto stranamente i tic sono finiti, continuate signore, per carità, continuate, certo che la squadra che vince non si cambia. Cioè, io dico sempre, a me non interessa se la medicina è cinese, è ayurvedica, è indiana, è dependente americana del sciamanesimo, a me interessa che sia efficace per curare quel tipo di sintomo. Cioè, va bene, sì, allora continuiamo la medicina cinese, va bene, allora continuiamo la naturopatia. Cioè, tutto quello che può essere utile, allora, questa condizione non richiede ideologismi, bisogna essere pragmatici, ok? Ma io penso che non deve proprio esistere l'ideologismo, cioè la mentalità ideologica in medicina non deve proprio esistere. Cioè, sei chiuso, sei close, tu devi essere aperto a tutte le esperienze, a tutte le novità. Ci sono medicine millenarie come quella cinese, io direi, che noi devo dire, con cui dobbiamo contaminarci, dobbiamo avere un rapporto, perché ci può essere utile, molte cose noi sappiamo. E sanno loro molto spesso come curano in molti bambini, ci può essere di grande aiuto. Quindi l'azione chiamata del cumino nero è molto importante, i fumi, questo è un altro capitolo. Pollard è un grandissimo studioso, un nutrizionista americano, un divulgatore, che praticamente ha fatto bellissimi libri proprio su questo tipo di argomenti. E quindi sono in conclusione. Allora, l'importanza di Rota ne parleranno dopo i miei colleghi, l'importanza fondamentale della dieta, che è fondamentale lo vedremo. E questo vi consiglio questo bellissimo libro di due carissime amiche, ma veramente un libro fondamentale per chi vuole. Io penso che senza il microbiota non possiamo fare i medici nei prossimi 20 anni, 30 anni, voglio dire, dobbiamo ormai, alla luce di quello che sappiamo, dobbiamo conoscere il microbiota. Il futuro è la decisione, la dico già, quindi la farmacogenetica individuale voglio dire, ci metterà in condizioni di risolvere questi problemi. Ho finito, questo vi lascio con le parole della Latimer, che dice la Panzman è una tragedia non perché manca la terapia, ma perché non è diagnosticata. Chi nega la Panzman dovrebbe prima conoscere la malattia e non si può negare che non si, ciò che non si conosce. Allora, risultati: preferire gli psicofarmaci a una semplice terapia antibiotica è imperdonabile, e quindi in medicina più che in un'altra attività è importante collaborare. I pediatri sono in prima fila come noi e non possono negare una realtà così ormai evidente, va bene? E con questo vi ringrazio, scusate per me. Allora, dunque, una prima riflessione ci ha inondato davvero di troppe forse di una marea di notizie. Ora facciamo la discussione su ogni relazione, perché sennò poi confondiamo e non riusciamo a seguire, proprio perché si fa fatica poi a seguire relazioni del genere, perché le nostre competenze, le nostre esperienze sono diverse. Ora, una prima riflessione la faccio io. Allora, è un autoimmune. Bene, il futuro, ragazzi, sarà più logico, sarà gli anticorpi bloccanti, perché è lì. Però anche lì le aziende investono quando c'è la possibilità, quando c'è un futuro da poter vendere. Questo rientra sempre nel riconoscimento di queste patologie. Perché è logico, il riconoscimento farà aumentare il discorso chiaramente dei casi, e quindi le aziende investiranno. Una patologia autoimmune, come voi sapete, la neurologia, l'orticaria cronica idiopatica, l'artrite reumatoide, oggi tutte queste autoimmuni sono curate con i biologici. Quindi probabilmente il futuro della terapia, che sarà in grado della terapia specifica. Oggi si parla di medicina di precisione, come sapete, in allergologia, questo è, non è che un asma è uguale per tutti, tarare la terapia. Oggi in allergologia abbiamo 10 biologici per dalla dermatite atopica, oggi curiamo la dermatite atopica di un bambino con una brutta dermatite atopica a 6 mesi con un biologico. Cioè, nell'evoluzione delle terapie sono cambiate addirittura, io penso che 5-6 anni fa non avrei mai somministrato un biologico a un bambino di 6 mesi con la dermatite atopica. Oggi è stato licenziato, è stato dottorizzato. Quindi questo per dirvi, è un autoimmune, è un'immunologica. Bisogna trovare la terapia specifica per bloccare l'evoluzione. Questo solo la ricerca lo può fare. E logico, Andrea va attentoni, no? Dici, provo questo, provo quell'altro, questo, qua. Poi la risposta che ha detto, non lo so perché è guarito. E non lo sa, è vero, non lo sa. Noi nella nostra pratica quante volte abbiamo detto, però è guarito. No, tutti. È normale. Ora, diciamo che, secondo me, bisogna restringere il campo, perché è troppo vasto, orientare una terapia specifica che sicuramente sarà immunologica e sarà bloccante, e questo penso che sia il futuro, la mia impressione ascoltandoti. Detto questo, domande, adesso divertitevi. Anche perché faccio la valletta, faccio tutto da solo. Buongiorno, grazie per la relazione. Io forse faccio questa osservazione, che personalmente mi preoccupa, potrei aver capito male. Cioè, lei ha parlato più volte di trattamenti off-label. Sì. Questo è un corso dell'ordine dei medici, e qui siamo tutti medici che possiamo lavorare solo in lab. Non so, noi possiamo dire tutto di tutto, ma dobbiamo dimostrare che questo funziona. Adesso posso capire che in itinere, è ovvio, se uno non sperimenta non arriverà mai un risultato, ma finché non si arriva a un risultato, dire che può funzionare una cosa che può non funzionare, può fare dei danni, credo che sia pericoloso e non esportabile a una parte di medici che invece devono lavorare su dati che escono fuori da studi scientifici, perché tutte queste cose noi li conosciamo come drammi, sono il futuro, ma veniamo invitati costantemente a metterlo in atto solo se lo studio scientifico, tutto quello che noi facciamo, ci dice che lo possiamo fare, come diceva Paolo, usiamo il microbio neuronale, perché sono stati iniziati studi scientifici che ci hanno detto che funzionano e funzionano per quella malattia lì. Sappiamo che tutto il movimento scientifico mondiale si sta muovendo su questo, l'omica in generale sarà il futuro e ci permetterà la terapia cosiddetta sartoriale, ma per ogni singolo studio omico ci sono milioni di pazienti che si stanno sottoponendo alla sperimentazione. Quindi può darsi che ho capito male, ma io intendo usare farmaci off-label, a parte gli aspetti medico-legali, ma anche le garanzie al genitore che utilizza farmaci off-label, quindi non sicuramente funzionanti, potrebbe essere un rischio, oltre a quello che può comportare per noi pediatri un, come dire, indicazione a dire: vedete quello che funziona. Se funziona andate avanti, se no, qui si tratta di sperimentare 10-12 terapie, mi sembra un po' esagerato. Buongiorno a tutti, io sono la mamma di un ragazzo pazzo, non sono un medico, sono un insegnante, però vorrei rispondere al dottore, perché io ho provato sulla pelle di mio figlio. Allora, hanno diagnosticato di tutto, mi ha utilizzato dei psicofarmaci e il mio figlio io lo stavo perdendo. Quindi dei genitori disperati si aggrappano tutto e in questo tutto io ho trovato la salvezza, perché oggi mio figlio non è più aggressivo, oggi mio figlio si sta riprendendo, scusatemi l'illusione, giorno per giorno. Io devo ringraziare questi medici che per noi sono preziosi, per me mamme, e vorrei fare loro un grandissimo applauso, perché chi non prova non credo che non possa neanche giudicare, perché se noi non avessimo avuto loro, oggi io parlo per mio figlio, non lo avrei qui vicino a me e non lo vedrei ogni giorno migliorare sempre di più. Quindi grazie al dottor Capone, che è stato il primo che mi ha seguito, grazie a Stefania Alessio, grazie a tutte le mamme che fanno rete per la divulgazione, per la diffusione, perché vi posso garantire che si è entrata all'improvviso in un inferno dal quale a volte è difficile uscire. Quindi bisogna anche, io mi sono nella disperazione fidando e posso portare qui la mia testimonianza, non da medico ma da mamma. Mio figlio era un caso disperatissimo, ha avuto una diagnosi dopo 14 anni, ora mio figlio sta molto meglio, ne sta uscendo. Questo era un dovere. Quello che dici, Nico, è giusto, ed è quello che bene o male ho espresso, però c'è una differenza che ti volevo segnalare. Stai utilizzando farmaci in commercio, quindi off-label è età e farmaco. Se c'è una accettazione da parte del genitore della terapia, io uso l'amoxicillina, un farmaco in commercio. L'off-label è sperimentale quando non è ancora licenziato, quindi è una sperimentazione. Qui è più delicato, perché tu usi un farmaco che è in commercio, un farmaco che ha un'indicazione, la usi sull'indicazione borderline. È un off-label un po' più ampio, chiamiamolo così. E questo penso che sia una cosa che comunque va sempre condivisa con il genitore, va sempre autorizzata dal genitore. E un pochino forse ci tutela un pochino di più dal punto di vista legale, però perché tu utilizzi un farmaco che utilizzi normalmente. Per una riflessione questa. Altre domande? Io vorrei precisare, il mio intervento non è contro nessuno, è per stare tranquillo io, che quando faccio un'azione, quell'azione sia a favore del bambino e della mamma e non forse è a favore del bambino e della mamma, e che sia un'azione ripetibile anche in altri bambini che hanno quel problema. Non credo, allora, potrei rispondere? Allora, Sì, adesso poi tutta una piaga su questo argomento. Allora, intanto sulla Vance Fund, 10 anni fa, tutto da questo papà, come c'erano, c'è poco. Gli ultimi 10 anni sono migliaia e migliaia di articoli di PubMed, meta-analisi, che dimostrano, anche tutti i lavori scientifici che dimostrano l'importanza di quel tipo di farmaco, di quel tipo di terapia. Ormai abbiamo tanti lavori che dimostrano l'importanza delle immunoglobuline, della plasmaferesi, di alcuni anticorpi polmonari. Voi dite, non è che ci sono cose, dico, almeno così di certo io. Per quanto riguarda questo, i farmaci, praticamente, è la response americana, non è di dire che dopo su lavori, appunto, quello che la Svido l'ho presentato, che lavoro passo una delle più importanti riviste americane di psichiatria, praticamente ha, come dire, autorizzato l'utilizzo della penicillina e della moxicillina in questi casi, quindi mi sembra una cosa. Del resto, noi abbiamo perso il ricordo della malattia reumatica. Allora, quando io ho iniziato a fare il pediatra, c'era una malattia che portava la corea, che doveva essere lo secondo. Ora, più o meno sono simili, soltanto cambiano tanto la tempistica dell'insorgenza della sintomatologia psichiatrica, però ora io ricordo che c'erano bambini di 7 anni, 8 anni, che avevano la cardite anche, oltre che l'artrite, che dovevano fare la penicillina fino a 18 anni, e poi alcuni fino a 21 anni, e alcuni a vita. Quindi voglio dire, noi l'idea della terapia della transplant l'abbiamo mutuata dalla malattia reumatica. Infatti il protocollo iniziale proposto dalle prime Consensus Conference negli anni 2000 così, avevano proposto la terapia che si fa nella malattia reumatica, 5 anni di penicillina, dopo che poi c'è stata nelle consensus successive una revisione critica dicendo è anche possibile non fare 5 anni, perché è possibile che dopo 1 o 2 anni questi bambini possono migliorare. Quindi non devono fare penicillina per tanto tempo. E quindi hanno proposto un protocollo di svezzamento della penicillina, che non puoi pensare da un giorno all'altro, che è un protocollo presentato qui, però poi non puoi parlare. Quindi non è che potete offrire per dire che in alcuni casi, praticamente, poi c'è anche un altro aspetto. Allora, purtroppo, un aspetto di trova chiara. Allora, a volte succede che tu apri il protocollo, diciamo, quello previsto internazionale, che consiste nella penicillina, nella Lumentin, nella tetromicina. Non funziona. Allora ti fai due cose. O dici alla mamma, se va dato, mi dispiace, il vostro figlio è incurabile, non lo posso curare. Cioè non c'è niente da fare. Oppure, come cercavo di fare io a varie volte, cerco di avere delle alternative. Ma perché ho queste alternative? Perché da pediatra ospedale, 35 anni di ospedale, sapendo di dire maritato un certo tipo di farmaci, cioè, applicando un buon ragionamento su alcune cose, però ci sono cose, però è anche su case record, perché in questi casi non c'è un'evidenza di semenza su tutto, però praticamente ci sono praticamente tanti lavori di case record praticamente che ti autorizzano all'utilizzo di quel tipo di terapia. Cioè, ho detto, non sono cose, molto spesso esistono lavori sull'utilizzo degli antivirali, alcuni consigliano l'utilizzo, cioè ci c'è in letteratura internazionale questo tipo di approccio, non è più del capitolo. Allora, io non sono un tifoso della evidence based medicine, e c'è tutta una corrente di pensiero che fortunatamente sta mettendo in crisi in America, viene messa sotto accusa della evidence based medicine. Allora, faccio un esempio per gli ospedalieri, no? Allora, abbiamo sempre curato le bronchiolite negli ultimi tempi. Con la evidence based medicine ci dice che la bronchiolite, l'unica cosa che devi fare è l'ossigeno e basta. No? Okay. Io da ospedaliero, ho notato che da quando abbiamo introdotto l'adrenalina nell'uso della, noi abbiamo avuto dei miglioramenti clamorosi con l'adrenalina. Ora, no, per quanto riguarda l'uso degli antibiotici, sappiamo che i macrolidi hanno un'importanza fondamentale nel bloccare i processi infiammatori anche a livello polmonare, fondamentalmente. Tutti i lavori che hanno fatto sul Covid, sul BPCO, sono fondamentali. E quindi praticamente non mi sono mai azzardato a seguire il pensiero. Un collega che l'ha fatto è stato condannato. Perché? Perché se tu almeno in 3 mesi gli fai soltanto l'ossigenoterapia e poi il bambino muore, gli fanno autopsia e scoprono che nel polmone c'è un pneumococco. E ti dicono, perché non ha preso l'antibiotico? Perché il protocollo dice che non è nell'algoritmo, non si usano gli altri. Ma un bambino prima di 3-4 mesi che viene ricoverato, non ospedale, viene ricoverato, praticamente ha grandissime possibilità di beccarsi un'infezione anche in ospedale. Quindi, anche se per difendere dalle infezioni nosocomiali, in ogni caso una cosa che io con il altro bambino ho sempre fatto, perché praticamente comunque la risa di medicine ha detto che è una, devo dire, è diventata biologia, cioè il nostro campo è diventato una biologia, cioè in cui noi dobbiamo seguire un calcolo statistico, perché il 75-80% di persone ha dimostrato questo, e il 20%? Che cosa fa il 20%? Ma ci sono Allora, ci sono le tre medicine, una basata sull'evidenza, quella che io seguo perché sarei in forma non seguirla, sull'evidenza scientifica, una seconda basata sull'esperienza, e quando non ci sono né evidenze né esperienza, io la baso nel buon senso, per dire, o la affido ad altri colleghi o fanno in me. Quindi voglio dire questo, cioè voglio dire che la evidenza sull'esperienza non può essere il punto di riferimento. Che casistica sul paziente? Non io, la media americana, allora soltanto quella della stessa vaccina, la stessa vaccina ha pubblicato un caso di... Dice, faccio delle terapie perché ho dei risultati, ma su quali fasi lei pensa che un antimicotico sia efficace in una pancosa? Allora, molto spesso tu sai che l'antimicotico ha delle cambi di uso intestinale, e quindi se tu sei complicato con l'uso... No, non è a tutti, a chi dimostra che facendo un esame particolare, Qualità di scientifici esistono per quanto riguarda la sindrome di Tourette. Quali sono i dati scientifici o i marker biologici della sindrome di Tourette, di cui si parla tantissimo? La sindrome di Tourette. Allora, ragazzi, perché se no non riusciamo. No, perché se bisogna andare a cercare necessariamente i marker biologici, sono più le patologie che non hanno un marker biologico di quello che ce l'hanno. E che facciamo? Di capire la patologia di base, cercare di fare cose semplici per aiutare le famiglie, perché se io prescrivo delle cose che la mia ASL non fa, è inutile che le prescrivano, no? E può sempre ricorrere a dei geni importanti come può essere il posto. Ma quello è il vediamo anche le prossime relazioni, io capisco che si studiano dai colleghi, e come realtà siamo qui proprio per portarli nella relazione del studio, tutto quello che poi può diventare possibile sulla base di altri territori del futuro, perché se no siamo Finiamo un attimo al volo le domande, perché se non ci organizziamo non arriviamo alla fine, poi le domande. Più che una domanda, la mia può essere un piccolo contributo all'uso off-label di antibiotici. Non è che ci svegliamo al mattino e diamo un farmaco che è con l'accordo del paziente o del tutto del paziente. Io ho avuto, non sono pediatra, sono medico di base, specialista ginecologo, ho avuto questa esperienza ufficiale per l'uso off-label di un farmaco che in Italia è prescritto per problematiche gastrointestinali, ma che tutto il resto del mondo usa per le interruzioni di gravidanza. Ora, non è che al mattino mi svegliavo e utilizzavo il misoprostol per un'interruzione di gravidanza. Nel momento in cui ho deciso di usare il misoprostol, che è anche citato anche in Italia, per l'interruzione di gravidanza, a monte c'erano delle evidenze, non evidenze scientifiche, forse probabilmente una cosa che lei ha detto, ma forse abbiamo inteso un po' poco, riferendoci esclusivamente sulla sua esperienza personale. Però dietro la sua esperienza personale penso di aver capito che c'è tanto di bibliografia di ricerca scientifica. Nel momento in cui io ho proposto a un ospedale di utilizzare il misoprostol off label in Italia per l'interruzione della gravidanza. Ho fatto una raccolta di tutte le evidenze scientifiche, non solo evidenze ma gli studi scientifici internazionali, ma soprattutto ho avuto l'autorizzazione della direzione sanitaria. C'è il comitato etico, quindi... Io mi faccio due impressioni perché la velocità è già stata tirata un po' in causa al suo caso clinico, quindi mi faccio due impressioni. Uno, che il primo caso clinico, la mia domanda era se prenderà ancora rischio da lavorare sospeso, probabilmente non lo prenderò più. L'altra cosa è che in quel caso io credo che sia stato sia fondamentale, lo dico ai miei colleghi neuropsichiatrici, lo diciamo sempre nei VIP, la storia del neurosviluppo, cioè la storia di sviluppo di quel bambino, perché una patologia che insorge improvvisamente va studiata in un altro modo rispetto a una patologia che ha dei prodromi, ha una familiarità, ha una storia diversa di sviluppo. Perché tanti sintomi che lei ha descritto sono sintomi specifici che troviamo in tante disturbi, anche un disturbo spettro autistico, però poi è la storia di sviluppo che ci fa via questo differenziale. E quindi questo credo che sia fondamentale. E oltre a capire sviluppo anche capire le posizioni del genitore, il discorso dell'infezione precedente, perciò credo che sia importante quello del pediatra, del neuropsichiatra, perché non spesso le famiglie spesso noi le interroghiamo, ha avuto un tonsillite, ha avuto una gola, e molto spesso dicono non lo so, non mi ricordo il periodo, e forse avere l'aiuto del pediatra per ricostruire questa parte di storia per me è fondamentale. E l'altra riflessione riguarda un po' l'uso dei psicofarmaci, su questo ovvio che io sono una che utilizza e quindi mi sento chiamata in casa. Secondo me va riconosciuto innanzitutto che è una malattia rara che comprende, cioè che colpisce 1 su 12.000 pazienti, quindi dobbiamo essere bravi a diagnosticare quell'un paziente su 12.000 che usare la terapia giusta. Negli altri non possiamo confondere con panza e panna per non usare i psicofarmaci. Credo che sia fondamentale che si usi questo trattamento e che i psicofarmaci vengano usati in altri disturbi, però non ci ricordiamo che questo cibo è molto meno di tutti gli altri DOC che hanno un'incidenza e una prevalenza superiore, no? Per fare un esempio. Che cos'è, no? Ricordiamoci l'autismo, un bambino su 77 è autistico, quindi uno di noi ci dovrebbe essere un autistico, se forse un tratto ce l'ho io. No, io direi che questo è. Ora, io direi di andare avanti perché sennò siamo tremendamente in ritardo, quindi cedo un attimo il microfono a Chiara per la presentazione della seconda relatrice, anche perché altro avviso, chi non si è registrato si registri per cortesia, perché sennò non prende il coffee break, quindi poco da dietro. Sentiamo la seconda relatrice e andiamo a fare il caffè. Mi fa piacere presentare una donna. Pediatra e anche specialista in psicologia delle scienze e statistica medica, la dottoressa Cristina Panini, che ci parlerà delle scienze dell'infiammazione e con una particolare attenzione ai minimi giorni di vita del bambino. Prima abbiamo parlato del neurosviluppo, quindi forse è fondamentale, no? Parlare di questo e raccogliere nell'analisi informazioni necessarie in questo periodo fondamentale della vita del bambino. Grazie. Grazie, è un piacere per me essere qui, grazie per l'invito e sono molto colpita da queste sinergie tra le istituzioni, l'ordine dei medici e la speranza, già vi lancio quindi una proposta, è di pensare magari ad uno strumento di dialogo tra la neuropsichiatria e la pediatria. Come vedrete, io la mia attività prevalente riguarda lo spettro autistico, collaboro con diversi enti, tra questi l'Istituto L'Eugenio Medea, si è parlato del progetto NIDA, quindi la mente è insomma, su quella lunghezza d'onda. Il desiderio ecco, è proprio quello di creare degli strumenti di dialogo tra le diverse professionalità, soprattutto quando si ha a che fare con dei disturbi così complessi e che richiedono sicuramente una molteplicità di sguardi e un'integrazione di sguardi, perché altrimenti ognuno guarda il proprio pezzetto e non se ne esce. Quindi inizio un po' a raccontarvi questa storia. Pediatra che si è sempre occupata di immunopatologie, in particolare di immunodeficienze, quindi trattamento di queste gravi patologie mi portava chiaramente ad usare molto le immunoglobuline come terapia sostitutiva. In seconda stagione mi sono appassionata alla psicologia e alle neuroscienze e scusate che prendo il telefono per darmi un tempo. E la sorpresa è stata che questi due mondi, apparentemente così lontani, in realtà si incontravano in età evolutiva, proseguivano in età adulta. E il lavoro, soprattutto in questi ultimi 10 anni, è stato quello di unire i pezzetti, unire i professionisti, proporre dei modelli per rendere fruibile un'evidenza scientifica che è retorica, fin tanto che resta in rete, poi non arriva alle persone. Illuminante per me è stato l'incontro con Ernesto Burgio, ci sono tanti pediatri, quindi sicuramente sapete di che cosa sto parlando, e quindi è per me anche un po' un onore portare avanti. Sapete che Ernesto purtroppo non sta bene, quindi da un po' di anni non lo sentite, non lo vedete, e per chi si è occupato quindi dello shift di paradigma, del modello in chiave di genetica, è quasi un dovere portare avanti i suoi insegnamenti e renderli fruibili però, no? nella pratica clinica. Quando io vi parlai di una sindrome autoinfiammatoria di cui mi occupavo, che è la FAPA, io come immunologa ho centinaia di casi di FAPA, quindi i colleghi me li mandavano, e iniziai a vedere, soprattutto dopo che iniziai ad appassionare le neuroscienze, che alcuni avevano dei comportamenti un po' stravaganti. E Ernesto mi disse, ma guarda che non è un caso che questi bambini con una forma autoinfiammatoria abbiano anche qualche stranezza, qualcosa che riguarda il neurosviluppo. E così, in occasione di questo convegno della SIS, presentavo una comunicazione. Io raccolsi alcuni dei miei casi di FAPA, in cui avevo riscontrato, in particolare dei DOC, in alcuni casi, delle caratteristiche che poi portarono anche alla diagnosi di disturbo di spettro autistico. Questo Leonardo, 3 anni, vedete, scriveva di nome, è venuto da me per una FAPA. Quando si è trattato di venire giù dal lettino, Leo non voleva farlo. Non voleva farlo perché aveva paura del pollo nero, che il pollo nero venisse fuori da sotto il lettino e lo aggredisse. Poi, quando l'ho pesato sulla bilancia, è salito con il piede destro, poi il sinistro non era perfettamente allineato, vieni giù, sali. Quindi in sostanza c'erano proprio le caratteristiche anche di un DOC. In sostanza questa famiglia è venuta da me con era l'epoca del dottorato. Io ho fatto il dottorato presso il laboratorio autismo con il professor Politi, no, all'università di Pavia, quindi ha avuto uno sguardo sull'età adulta. Insomma, in sintesi, lei è tornata a casa anche con un sospetto fondato, che poi è stato confermato con ADOS ADL, di disturbo di spettro autistico. Uno viene per una diagnosi di FAPA e se ne va a casa poi con questa doppia diagnosi. Ebbene, comunicata anche nella maniera adeguata, ok? Queste sono le parole della mamma prima che partissi per il convegno di Caserta della SIS. Da parte nostra faremo tutto quello che servirà per aiutare Leonardo a non farlo sentire un bambino che sbaglia sempre. Quindi vorrei iniziare con questo caso concreto in cui i due mondi si incontrano in questa storia, in questa famiglia, per lanciare adesso questa carrellata di slide. Guardiamo le figure, in sostanza io vi lascerò il materiale e dovrò rimanere nei tempi, quindi cercherò proprio di farvi intravedere dei puntini che vi possano dare dei disegni a supporto di quello che oggi vorremmo portarvi. Neuroinfiammazione, andate su PubMed, boom, questo è l'andamento dei lavori degli ultimi anni. Grande attenzione e preoccupazione è soprattutto per quanto riguarda tutti quegli aspetti neuroinfiammatori, neurodegenerativi, con dei costi sociali, sappiamo, no? L'anticipazione preoccupante anche di tutte le malattie neurodegenerative, con questi grandi capitoli di patologia, no? Quindi alterazioni delle proteine all'interno del sistema nervoso, e quindi un sistema, una microglia che reagisce, e altra via invece arrivano dall'esterno attraverso le membrane, come si diceva, cellule infiammatorie, autoanticorpi, quindi queste due grandi vie maestre Vediamo una rapida carrellata di quello che anche noi durante il nostro corso di medicina abbiamo imparato. Chiaramente sono tabelle che nel tempo si sono sempre più arricchite di casi, le scorriamo rapidamente solo per darvi un'idea di come noi solitamente procediamo, no? Quindi la definizione di ogni sindrome avviene sulla base quindi di caratteristiche cliniche, di riscontri agli esami di laboratorio e di neuroimaging, quindi neuroimaging e tracciato elettroencefalografico fondamentalmente, poi la pleocitosi a livello del liquido cefalorachidiano e ricerche di autoanticorpi, ok? Quindi abbiamo diverse categorie, queste le scorriamo, poi se vi interesseranno le vedrete, le slide saranno a vostra disposizione. Andiamo verso quelle patologie con degli autoanticorpi specifici verso alcuni recettori, abbiamo sentito quelli per la dopamina, l'NMDR con delle situazioni veramente di autoimmunità che possono avere davvero delle conseguenze gravissime. Se diamo un'occhiata alla colonna di destra, ci sono tutti i sistemi frenanti rispetto al sistema immunitario, quindi quello del mettere le pezze, no? Quindi la terapia sostitutiva con immunoglobuline che va a mettere un po' le pezze per andare a bloccare poi gli effetti degli autoanticorpi, la plasmaferesi, quindi tiro via, la terapia immunosoppressiva più tradizionale che va dal metilprednisolone alla ciclofosfamide, la zatioprina, fino poi ai proiettili intelligenti che sono appunto gli autoanticorpi. Questo per avere quindi questa panoramica di forme. I criteri per una diagnosi di encefalite sono intanto la modalità d'esordio, solitamente si parla di 3 mesi, quindi se una persona cambia rapidamente, noi abbiamo casi in cui si cambia dalla mattina alla sera, no? Altro che 3 mesi, comunque questo è il criterio temporale. Poi dei segni clinici, come li raggruppiamo? Sono segni che riguardano quindi un'alterazione del sensorio, comportamenti, come diceva prima il dottor Manzi, che si poi esplicitano in diversi ambiti, e poi tra gli esami, esame del liquido cefalorachidiano o caratteristiche della risonanza. Okay. Ce ne sono alcune magari più caratteristiche, tipo l'encefalite limbica, no? In cui vedete l'iperintensità pesata in T2 con questa simmetria delle parti mediali dei lobi temporali, dell'interessamento dell'ippocampo, l'encefalomielite acuta disseminata, e poi quest'altra a cui faceva sempre riferimento Manzi prima, che è questa degli anticorpi antirecettore NMDA. Questi sono dei recettori, qui vedete, non la leggo per stare un po' nei tempi, comunque una sintomatologia clinica che è simile a tante altre situazioni a cui assistiamo, e con una certezza di diagnosi quando troviamo degli anticorpi specifici, appunto. Però ecco, a fronte di questa sintomatologia, e questo è il messaggio che vorrei lasciarvi, non possiamo fermarci, no, alla diciamo, se ci sono dei segni motori, dei segni focali che quindi riguardano l'aspetto motorio, è più facile che si vada all'accertamento. Il problema, nella mia esperienza, nasce nel momento in cui le alterazioni si limitano magari soltanto agli aspetti comportamentali. Lì allora c'è un po' il rischio che ci diamo magari una spiegazione, perché è nato il fratellino, perché ho cambiato casa, perché c'è stata la separazione dei genitori, perché va tanto bene a scuola, si è stressato tantissimo, perché aveva sia la maturità sia la patente a cui teneva tantissimo. Allora, intanto lo stress è uno dei meccanismi fondamentali, poi penso ne parleremo dopo, di aumento della permeabilità, si aprono i cancelli. Non è un caso che gli anticorpi antirecettore per l'acido folico nelle mamme avvengano in gravidanza per quanto periodo meraviglioso, ma è uno stress pazzesco, perché costringe chiaramente a tutta una serie di cambiamenti. Quante volte sentiamo, no, nell'analisi familiare, allergica? Ma non sono mai stata allergica, però lo sono diventato durante la gravidanza. Perché? È perché in quella fase lì l'intestino diventa un po' un colabrodo, ha un senso, perché bisogna campionare l'ambiente, conoscerlo, E però se noi abbiamo un ambiente, e quindi iniziamo a mettere avanti il piedino sui mille giorni, un ambiente che sta cambiando molto rapidamente con tante molecole, bisogna fare tanto, conoscere tanto. Ecco perché l'autoimmunità quindi può essere, nascere anche durante la gravidanza, questi autoanticorpi che hanno, guarda caso, una cross reattività con le proteine del latte vaccino, possono prodursi proprio in quella fase lì. Resto allora, torno su questa dell'encefalite antirecettore NMDA. Per sottolineare quindi quanto sia importante la presenza di questi autoanticorpi, andare ad interferire con questa funzione significa modificare il dialogo, la comunicazione tra i neuroni, modificare i processi della memoria, l'apprendimento, quindi parliamo di tutte quelle funzioni esecutive di cui diceva prima Manzi. Okay. Ci sono due condizioni che possono facilitare la formazione di questi autoanticorpi: il teratoma ovarico, quindi siamo fuori sede, ma perché? Perché il teratoma ti passa un campionamento di tutti i tessuti, quindi ti presenta tutti gli antigeni, quindi anche quelli che teoricamente non dovrebbero essere così accessibili, ecco perché il teratoma ovarico ha questa peculiarità, ma anche le infezioni da herpes simplex. Questo herpes, tutta la famiglia degli herpes virus, cui mettiamo dentro, quindi mettiamo dentro anche il citomegalo, l'EBV, ok, tutti questi hanno nei confronti del sistema immunitario delle azioni particolari, perché vanno, soprattutto l'EBV, sapete, va a ingannare il sistema immunitario, a produce quasi delle finte citochine, per cui il sistema immunitario pensa di star che sta lavorando benissimo, ma in realtà non è così. Sono infezioni, insomma, che creano confusioni. E riprendo quindi questo libro bellissimo, tra l'altro c'è anche il film. E il fatto che quando poi si è conosciuto questo caso, poi si è aumentata notevolmente, no, la diagnosi, la frequenza di diagnosi, dimostra quanto la consapevolezza, il fatto di parlarne, grazie anche alle associazioni di tutela, la conoscenza e la condivisione culturale tra i medici possa modificare le cose. Un altro spunto di cui vorrei parlarvi, quindi vedete, sto prendendo le PANS e le PANDAS dall'esterno, quindi vi parlerò poco in realtà di PANS e PANDAS. Vorrei mettere a vostra disposizione una super sintesi, cioè super, nel senso che è molto piccola, ma una specie di bigino di tutto quello che la ricerca in campo neuroscientifico mette a disposizione per dare anche un supporto a quello che diceva Manzi, per far comprendere come l'esperienza magari clinica poi porti ad alcune scelte, ma che non sono a caso, ma derivano da una sintesi appunto di una evidenza e di una cultura scientifica complessa. Questo è uno studio interessantissimo che riguarda gli autoanticorpi diretti contro gli interneuroni, che sarebbero quelle stelline gialle con tutti quei fili rossi che vedete. Quindi il messaggio in sostanza è che gli autoanticorpi possibili sono tantissimi, quindi molto spesso noi non li troviamo, ma perché non sappiamo che cosa dobbiamo andare a cercare. Il punto è che quando ci sono degli anticorpi che vanno ad interferire, per esempio, sulle centraline di comunicazione, noi abbiamo un disturbo di comunicazione tra le cellule. E quindi ecco che questo parallelismo, no, poi tra i disturbi di comunicazione dei nostri pazienti e quello che avviene a livello cellulare e molecolare è importante. Se noi non andiamo a sistemare la comunicazione tra le cellule, difficilmente potremo avere dei riscontri in clinica. Affronterò soltanto il DOC come espressione, diciamo, clinica caratteristica di molte encefaliti autoimmuni. Questo è un lavoro interessante, quindi vi segnalo. Gli autori sottolineano come nel DSM-5 ci sia una distinzione tra DOC primario e disturbi organici. Nell'ICD-10 si menziona soltanto il DOC primario, ma invece nell'ICD-11 mi risulta che si parlerà anche di quello organico. Ora, il punto è che se davanti ad un DOC non ci attiviamo subito per andare a cercare delle cause organiche, se non cerchiamo non troviamo. Qui vi presento questo elenco di, non sono lavori, sono lavori, ma in realtà ognuno, come vedete, è una meta-analisi, quindi ciascuno di questi lavori è in realtà la sintesi di numerose pubblicazioni. A sottolineare come ci sia una evidenza molto robusta di alterazioni immunologiche in molti DOC. Allora, gli autori propongono questa sorta di linea, no? Che va dalla PANDAS alle PANS, con quindi la possibilità di identificare un colpevole, un possibile trigger, e forme invece di encefalite autoimmuni in cui non troviamo dei possibili inneschi infettivi, fino a poi delle manifestazioni neuroinfiammatorie autoimmunitarie nel contesto di sindromi autoimmuni. Pensate al lupus, per esempio, no? Una sindrome di Sjögren, abbiamo queste manifestazioni. Rispetto al campionario dei trigger infettivi, qui vi presento soltanto l'esempio di scrittura di una ragazzina che tra i vari disturbi aveva un'infestazione da ussuri. Qui il pre e post, la terapia con l'antiparassitario. Io non so per voi, nella mia esperienza molto spesso la ricerca dei parassiti è falsamente negativa, nel senso che magari le famiglie li vedono, ma poi quando andiamo a fare il test è misteriosamente negativo. Una volta mi è capitato di avere un paziente che veniva dall'Africa, per cui aveva una specie di anguilla che si vedeva a occhio, ma poi nella ricerca parassiti non, era negativa, non si è capito nome e cognome di questo essere. Quindi ecco l'importanza di questa modulazione, di questo trattamento delle infezioni sottostanti. Allora, torniamo ai criteri diagnostici delle encefaliti autoimmuni. Vi dicevo, criterio temporale, dei segni focali, ovviamente la sintomatologia convulsiva è subito ci attiva e ci allerta, e poi degli esami, con bandiere gialle e bandiere rosse, chiaramente, che ci portano verso un sospetto diagnostico sempre più robusto. Qui ho già evidenziato in giallo questi aspetti per sottolineare come, soprattutto se noi abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, e quindi non hanno ancora magari sviluppato un linguaggio ben strutturato, può diventare difficile capire, no? E leggere queste regressioni. E qui devo andare proprio veloce, comunque le avrete, diventa magari più difficile nel caso delle psicosi limitarci alla valutazione del sintomo, no? E dare magari delle spiegazioni che ci possono sembrare plausibili, senza però andare a fare delle valutazioni di secondo livello, no? Quindi ormai questo stretto collegamento, quindi il fatto che si tratti fondamentalmente di disturbi neurobiologici, e quindi questa lettura sistemica non può consentirci di etichettare solamente il sintomo comportamentale, ok? Poi, chiaro, facciamo gli esami, in molti casi non emergono delle alterazioni e ci fermiamo. Ma quindi vi parlerò anche proprio dell'autismo come condizione paradigmatica su cui si sta facendo tanto, e quindi autismo che ci può insegnare anche su altre, per altre condizioni, per sottolineare come, se magari modifichiamo un po' il nostro sguardo e condividiamo alcuni strumenti, quello che magari apprendiamo rispetto a delle sindromi rare ci può essere d'aiuto anche per affrontare altre condizioni. Si diceva la corea, sicuramente la corea di Sydenham ha dato input poi a tutta una serie di ricerche, quindi si è parlato dei criteri PANDAS-PANS e anche delle alterazioni, quindi, che si trovano nel neuroimaging in queste condizioni. L'ipotesi del mimetismo molecolare, quindi analogamente a quello che avviene per la corea, e riferimenti anche a delle barriere che sono alterate. Tra l'altro ci sono delle ricerche molto interessanti che mostrano come il sangue delle persone PANS a contatto con le barriere modifichi, quindi ci sono dei fattori che in gran parte non conosciamo, ma che probabilmente mantengono questo circolo vizioso. E schede, criteri di diagnosi, quindi queste schede, questi strumenti potrebbero magari essere utili. Qui segnalo questo che è stato tradotto in italiano questo, ed è quindi disponibile sul sito PANS PANDAS, e il desiderio è proprio di mettere a disposizione altri strumenti che possano essere facilmente fruibili. Ora, se parliamo quindi di condizioni autoimmunitarie con delle manifestazioni sicuramente neurologiche, bene, ma è importante tenere ben presente la voce degli immunologi allergologi, è per questo che vi ho portato proprio la voce di uno dei big, no? Mondiali, no? Gio Bellanti, sapete, è proprio una delle voci più autorevoli nel campo dell'immunoallergologia mondiale. Quindi PANDAS e PANS continuano a rappresentare una sfida per medici, pazienti e famiglie. Sebbene la causa precisa nello sviluppo di questi disturbi rimanga sconosciuta, si ritiene che entrambi abbiano una base autoimmune correlata alla produzione di anticorpi diretti contro antigeni di presunti agenti patogeni infettivi causali che reagiscono in modo crociato, bene, con epitopi antigenici su nuclei cerebrali specifici, quindi con sequele infiammatorie. Prosegue, rappresentano dunque un problema per un numero crescente di pazienti, operatori sanitari e sistemi sanitari, e rappresentano una particolare sfida per l'allergologo e immunologo, che viene sempre più spesso chiamato ad occuparsene. Ecco, qui in Italia però non mi sembra che questo avvenga, quindi una voce, insomma, il coinvolgimento di immunologi e allergologi io credo debba diventare più robusto nello studio di queste condizioni. Un altro spunto che vorrei portarvi, quindi premessa questa difficoltà nella definizione, perché quadri eterogenei, diversi sottotipi, e poi una diagnosi non esclude l'altra, anzi più andiamo avanti più ci rendiamo conto che tutte queste condizioni sono molto spesso in sovrapposizione tra di loro. Essere nello spettro autistico non esclude PANS o PANDAS, così come PANS PANDAS non esclude che una persona sia nello spettro autistico. E qui vi porto la voce di Gunilla Gerland, che è una delle donne autistiche più famose al mondo e anche con un contributo, questo è un libro bellissimo che lei ha scritto sulla sua storia. Lei ha avuto un figlio PANDAS, e quindi come succede quando poi sei genitore devi entrarci proprio fino al collo in quella condizione lì. E lei fa, visto che ha fatto docente in questo ambito tanti anni, ma qui fa una sorta di mea culpa dicendo: ma non ci ho mai pensato che alcune fluttuazioni e i report di alcune famiglie potessero essere, soprattutto queste brusche regressioni, potessero essere in qualche modo spiegate da una PANS e da una PANDAS. L'altro aspetto, l'altro spunto che vorrei collegare a questo discorso riguarda i disturbi del comportamento alimentare. In questo studio si vede come la metà dei bambini con disturbo del comportamento alimentare presentasse anche criteri PANS. E la lascio lì un po' in sospeso, quindi alzando un po' la palla poi per la collega che vi parlerà del microbiota, perché non mi meraviglia che ci siano tra i criteri proprio dei disturbi del comportamento alimentare, visto che stiamo parlando di una condizione in cui l'asse intestino-cervello è così importante. Se noi parliamo di sistema immunitario, per forza dobbiamo parlare anche di apparato gastrointestinale, perché sappiamo che più della metà del sistema immunitario sta lì. Quindi alcune co-occorrenze, tipicamente nel campo dello spettro autistico, dove ormai gli aspetti neuroinfiammatori hanno una evidenza robusta, noi le potremmo anche già prevedere a tavolino, direi, alcune co-occorrenze, sapendo quale sia la fisiopatologia sottostante. Allora, il tema della permeabilità intestinale, a cui faceva riferimento il dottor Manzi prima, diventa centrale quindi per chi si si occupa quindi di far diagnosi, di tremendo, stiamo lavorando, portando un'evidenza scientifica per poter modificare i LEA, per esempio, perché se c'è un'evidenza che dimostra l'importanza di alcuni esami nella diagnosi e nella definizione di alcune patologie, questi esami dovrebbero essere poi un diritto e non dovrebbero essere pagati. Quindi la zonulina, lo studio del microbiota, gli anticipo, lo stress ossidativo, a fronte di una evidenza robusta, ad esempio nello spettro autistico, meriteranno sicuramente una revisione dei LEA. Perché per me abilità intestinale è così importante? È perché, vedete, se c'è permeabilità, c'è la stimolazione del sistema immunitario sottostante, non è un caso che questa permeabilità correli, guardate la significatività qui a destra, correli con una significativa presenza di autoanticorpi, molti dei quali diretti verso antigeni del sistema nervoso. Ok? Diciamo un po' in sordina rispetto a quello che ci saremmo aspettati, ma stanno iniziando sempre di più anche studi che mettono sulla PANS e PANDAS, che valutano la permeabilità intestinale e lo stress ossidativo. Qui in questo studio vedete come, ve lo riassumo io, PANDAS, ma non nelle PANS, si è riscontrato rispetto ai controlli un significativo aumento della permeabilità, dello stress ossidativo, e con una correlazione lineare proprio tra lo stress ossidativo e questi parametri che riguardano appunto la permeabilità intestinale e le alterazioni della membrana della lipidomica di membrana. Sono degli aspetti importanti che quindi ci danno una base per comprendere perché, per esempio, delle integrazioni antiossidanti nei pazienti PANS e PANDAS possano contribuire ad un miglioramento. Diciamo che per ora l'evidenza sarebbe quindi utile replicare questi studi, perché sono troppo pochi per poter dire che c'è una evidenza nelle persone PANS-PANDAS dell'impiego degli antiossidanti. Vi porterò, per quello vi dicevo che vi porto l'esperienza nell'autismo come spunto poi per poter fare un po' seguire la stessa strada, perché lì in quel caso la dimostrazione dello stress ossidativo nell'autismo è molto molto più robusta. Come fare poi allora per mettere insieme tutta questa grande complessità? La metabolomica, voi conoscete sicuramente Vassilios Fanos, eh? Vassilios Fanos è la persona che ce l'ha fatta conoscere, ci ha fatto capire quanto questa impronta digitale biochimica possa fornirci nel futuro, in maniera semplice e anche molto economica, con uno stick urine fatto in studio, possa fornirci delle informazioni utili per una medicina di precisione che non ci faccia sparare nel mucchio. Ebbene, questo era, dovreste sapere se parte appunto, questo è uno studio, un primo studio fatto dal gruppo di Fanos. Fanos ha fatto molti studi sulla metabolomica nell'autismo. Comunque, microbiota intestinale, biosintesi proteica, metabolismo energetico e profilo aminoacidico sono proprio quelli che sono risultati alterati in questo caso e anche in quell'altro lavoro di cui parlavi, no? Coordinato da Mugia, sempre del gruppo della Galliano. Allora, questa è un po' la carrellata in cui ho cercato quindi di riproporvi alcuni spunti della PANS-PANDAS e alcuni spunti quindi che poi forniscono le basi per impostare la terapia, ma anche per approfondire degli studi, perché sicuramente quelli che riguardano la permeabilità intestinale, il microbiota, lo stress ossidativo, come sono stati fatti nell'autismo, adesso bisognerà farli per bene anche nella PANS-PANDAS. L'autismo, come qui gli ultimi dati del CDC di Atlanta, sono veramente allarmanti. In gran parte sicuramente sapete ci sono state delle modificazioni dei criteri di diagnosi, quindi in sostanza in gran parte è un aumento non vero, cioè adesso definiamo autistiche delle persone che un tempo non avrebbero avuto la diagnosi. Ma detto questo, comunque la gran parte della comunità scientifica ritiene che ci sia proprio un aumento reale. E noi abbiamo bisogno di spiegarlo. Gli studi che riguardano l'immunologia hanno iniziato a prendere piede dai riscontri una ventina d'anni fa, quando partì questo lavoro di Vargas, quindi sugli studi autoptici. Qui ve ne presento uno tra le tante migliaia, in cui si rileva come nelle persone nello spettro autistico sia più alta la presenza di tutta una serie di autoanticorpi che hanno determinate funzioni, molti di questi proprio agiscono a livello cerebrale. Allora, perché la ricerca sull'autismo può essere utile per affrontare e guardare anche un po' diversamente tutta la nostra pratica clinica? Perché si sta studiando tanto, da tanto tempo e da tanti punti di vista. Perché se voi guardate anche soltanto il DSM-5, quindi sicuramente ci sono i due criteri, no? Quindi dominio A e dominio B, ma questa multidimensionalità che è proposta da DSM-5 ci fa vedere che la persona nello spettro autistico ha anche molto altro. E se noi vogliamo essere d'aiuto a quella persona, a quella famiglia, dobbiamo tenere presente, chiaramente qui mi rivolgo soprattutto ai colleghi neuropsichiatri, no? Che hanno quindi un po' questo compito difficile di fare poi tutta una valutazione funzionale di tutti questi domini coinvolti. Ma ci siamo anche noi pediatri, perché molti aspetti e molte concorrenze, poi vi lascerò il riferimento di una recente revisione della letteratura curata dall'Istituto Superiore di Sanità, queste concorrenze, molte di queste proprio riguardano il sistema immunitario, sono parte della sofferenza, della salute, della progressiva disabilità di questi nostri pazienti. C'è un aspetto quindi che oggi, parlando della neuroinfiammazione, vorrei condividere con voi, che è la diversa modalità di esordio dell'autismo, e in particolare una riflessione che con colleghi neuropsichiatri stiamo facendo rispetto all'autismo regressivo, cioè la linea tratteggiata. Bambini che fino ad un certo punto hanno uno sviluppo in epoca per la parte motoria, lo sviluppo del linguaggio, l'interazione sociocomunicativa. Addirittura ne ho uno che la mamma mi aveva detto, pensi, era talmente presente con questo sguardo così vivace che quando il cuginetto lo veniva a trovare e lo vedeva in cima alla scala diceva, mamma mia, ma che cos'è? Andrea sembra che abbia dei fanalini negli occhi. Questo secondo me è bellissimo, perché ti dà proprio l'idea di questo contatto di sguardo così presente. E poi dopo un po' di giorni Andrea però non c'è più, ti guarda attraverso, non risponde al nome, perde anche le competenze, a volte anche delle competenze motorie, la competenza sfinterica. In un caso di regressione un papà mi ha detto che il bambino si rintanava nella stanza, stava raggomitolato nell'angolo più lontano, dicendo che vedeva correre verso di lui dei rinoceronti rossi, quindi dei fenomeni dispercettivi, allucinatori anche, e piano piano nei giorni perdeva poi il linguaggio. Alcuni, in queste forme di autismo regressivo, ti dicono mi è rimasto l'autismo e mi è sparito il bambino. Allora, io credo che tutti noi, una comunità scientifica, clinici, dobbiamo fare delle riflessioni su questi report. Quindi, io mi comporterei come mi comportavo quando lavoravo in clinica pediatrica 30 anni fa, davanti ad una sintomatologia di questo tipo, immediatamente dobbiamo fare degli accertamenti e vedere che cosa sta succedendo, perché se questo bambino ha un'encefalite, noi se agiamo in quel momento lì, possiamo cambiare la vita di questo bambino. Già 20 anni fa c'erano delle osservazioni molto interessanti su alcune caratteristiche del microbiota, forse ancora non so neanche se ci fosse già la parola microbiota. Comunque, questa ricercatrice alla volta aveva un figlio autistico, un autismo regressivo dopo tutta una serie di otiti che aveva preso al nido, quante volte noi abbiamo i nostri bambini con infezioni respiratorie ricorrenti e nonostante raccomandiamo di rispettare una doverosa convalescenza, poi con un po' di paracetamolo finiscono e quindi non rispettando la fase della convalescenza prendono un'infezione su quell'altra. E in questo caso avevano visto per esempio che, parliamo no, scusate, di 25 anni fa, con una vancomicina, quindi sembrava che i bambini non fossero più autistici. Allora, è ovvio che non si sta curando l'autismo con la vancomicina, vorrei essere chiara. Però il punto è che andando, facendo questo intervento, e le volte l'aveva fatto su suo figlio 2 anni prima, perché aveva avuto un'enterite da Clostridium dopo tutti gli antibiotici, quindi l'aveva fatto per quel motivo, no? E aveva visto un miglioramento, una ripresa del linguaggio, quindi qualcosa che si era modificato. E il suo gruppo di ricerca quindi ha preso questo spunto e poi ha riproposto lo studio su 11 bambini con miglioramento poi alla fine di 8 su 10 che hanno proseguito lo studio. Allora il punto quindi qual è? Che già da tanto tempo si sa che quello che c'è a livello intestinale, poi sentiremo meglio di che cosa si tratta, può fare la differenza. Andare a modificare quindi questo equilibrio ha di fatto poi delle ripercussioni che però devono essere sicuramente oggetto di studio, controllati e con l'interesse quindi a raccogliere e poter condividere tra di noi le esperienze. È chiaro che chi lavora in ambito clinico, in ambito di ricerca, in ambito ospedaliero, ha delle possibilità diverse, ma la collaborazione, lo abbiamo visto nel centro di ricerca nel quale lavoro, la collaborazione con i medici del territorio è fondamentale in questo, perché i bambini e i casi che vedete sono vostri, insomma. L'ultimo spunto rispetto a questo riguarda nella progressione poi della ricerca l'aver capito che c'è questa fragilità, vulnerabilità del bambino nelle prime fasi di vita. Questo microbiota evidentemente è importante, che quindi i fattori ambientali che possono modificare il microbiota, dal tipo dell'allattamento, la modalità del parto e le possibili terapie antibiotiche, bene, tutto questo ha rilevanza. Devo avviarmi alla conclusione, quindi la gran parte delle cose non ve le potrò far vedere. Il senso in ogni caso è quello di proporvi quindi queste sindromi, queste forme, con una prospettiva sistemica, i sintomi neurologici, comportamentali, le co-occorrenze, quindi la sintomatologia, per esempio gastrointestinale, ciò che sta sopra il livello dell'acqua. Ma noi non possiamo fermarci né per quanto riguarda gli aspetti neurologici e tutta quella che è la complessità della costruzione del connettoma, né per quanto riguarda la complessità del sistema psiconeuroimmunoendocrino, possiamo fermarci a livello dell'acqua, della superficie. Questa quindi è la proposta che si sta realizzando per poter affrontare in maniera efficace e sulla base di un'evidenza scientifica che non sono soltanto gli studi singoli sulle coorti di pazienti. Evidenza scientifica è anche il mettere insieme, no, tutti questi puntini di una forse cultura scientifica, okay, che messa insieme ci fa vedere dei nuovi disegni. Ed ecco quindi quello che abbiamo proposto nel caso dell'autismo. Siamo in 35, qui per i nomi della pediatria, a parte Burgio, appunto l'ultimo nome è Vassilios Panos. Andiamo dalla ginecologia, mi fa piacere che ci sia un collega, perché le basi di fragilità, opportunità del neurosviluppo e rischi di neuroinfiammazione partono da te, partono dal medico di medicina generale che si occupa delle persone in età fertile, okay? Quindi una traiettoria di una collaborazione tra tutte le professionalità fino quindi al prendersi poi carico della persona, della famiglia, Dicevo, oltre, perdonatemi, oltre al ginecologi, quindi per la pediatria Burgio Fanos, per la neuropsichiatria Laura Villa, Antonia Parmegiani, poi il gruppo Moscone Bagni per quanto riguarda Asperger, per la psichiatria il professor Politi, Roberto Keller, quindi i nomi importanti in Italia per l'autismo in età adulta. Questo è il modello e questa quindi è la proposta che vi rivolgo per poter fare, pensare a un modello analogo anche per le PANS e per le PANDAS. Ricordando, te lo lascio, appunto a partire da questo lavoro quindi abbiamo creato questo gruppo di ricerca, gruppo di lavoro interdisciplinare per l'autismo, proponendo quindi delle ricerche in cui tutti questi aspetti che vanno dalla metabolomica, allo studio della microbiota, dei mitocondria, tutti questi aspetti sono integrati. Vado poi subito alla conclusione perché è tardi. Abbiamo parlato di un sistema immunitario che attacca, a volte sbaglia, perché fa cilecca e quindi non ci difende abbastanza dalle infezioni, ma oggi invece parliamo di un sistema immunitario che spara alla mosca con il cannone. E invece vorrei presentarvi anche un aspetto importante per chi si occupa di disturbi del neurosviluppo, che è l'aspetto costruttivo del sistema immunitario. Con questo affascinante parallelismo tra le caratteristiche del sistema immunitario e del sistema nervoso. Aver capito che il cervello non viene giù belle fatto con tutte le sue funzioni e svolgendo quindi le istruzioni contenute nei geni, ma ha in queste due finestre, primi 1000 giorni e adolescenza, le grandi finestre d'opportunità, bene, ci mette a disposizione delle conoscenze che derivano da caratteristiche peculiari del nostro genoma. Noi siamo campioni in DNA non codificante. Il 98% del nostro DNA non è codificante, non contiene geni. La colonnina dei geni, 23.000 geni, ci porta in posizione dopo il topo, il pomodoro e il riso. Quindi non è nel numero di geni, no, che c'è tutta questa nostra complessità, ma piuttosto nella complessità di software con cui vengono accesi e spenti i geni e come si costruiscono questi software. Sulla base delle informazioni che arrivano alle cellule nelle prime fasi durante l'ontogenesi. Il differenziamento cellulare poi non è altro che questo, no? Quindi in base alle diverse informazioni, stesso DNA, ma chiaramente forma e funzione diversa delle cellule. Okay? Quindi questo paesaggio epigenetico di cui Waddington parlava negli anni 40 e poi... questa è la definizione che Ernesto dà di epigenetica, lo studio delle modifiche reattivo-adattive del genoma alle trasformazioni ambientali. Quindi non un database inerte che manda ordini, ma un qualcosa di estremamente dinamico, che può essere come un libro. Immaginatevi quando voi rileggete i libri da quando eravate in terza media, poi li avete riletti, ogni volta li rileggete, ma non è più la stessa cosa. Vi danno altro, ecco, è un po' questo che vedo, no? nella lettura, nel far emergere informazioni diverse di un DNA che non sbaglia, ma cerca soluzioni. Avere un hardware che è sicuramente la molecola di DNA, ma poi nastri diversi, la vita di ciascuno di noi avrà un colore diverso in funzione di questa realizzazione di software nelle prime fasi di vita. E noi questo è stato l'oggetto, lo sapete, di molti dei nostri convegni dedicati ai primi 1000 giorni di vita, quando la stessa curva dell'autismo noi la vediamo nel diabete tipo secondo, l'anticipazione della sindrome metabolica, l'obesità, le malattie allergiche, malattie neurodegenerative, anticipazione preoccupantissima della demenza. Questi qui sono studi fatti dalle agenzie d'assicurazione americane, perché chiaramente assicurare una persona che ha 40 anni ha una demenza, ha una certa rilevanza. Allora, questa cosa ve la propongo in maniera sintetica, così. Questo è il... con una vulnerabilità della Ferrari dei nostri tessuti, che appunto è il sistema nervoso, quindi aumento dei disordini del neurosviluppo, disturbi neuropsichiatrici, malattie neurodegenerative e purtroppo tumori cerebrali. Questa è la DOD, questo è un po' stato il tema. Se qualcuno di voi era a Pisa nel 2016 per questo convegno, avrà sentito l'allora direttore del Dipartimento di Prevenzione dire: ah, ma voi da poco parlate però anche di altri di questa cosa, ma siate più coraggiosi, si disse, no? Allora queste cose qui non vanno solo scritte, che cosa si fa? In sostanza questo modello quindi ci fa vedere la costruzione del connettoma, quindi questi 87 miliardi di ragnetti che camminano e si collegano, come dei percorsi che sulla base della segnaletica possono creare disegni, reti diverse. Ok, quindi disturbi del neurosviluppo in sostanza più come differenze di software che breakdown di hardware. E allora in questo contesto ecco che ci mettiamo, allora il sistema immunitario, il microbiota e il metabolismo energetico. Sistema immunitario, senza un sistema immunitario non si forma un sistema nervoso, e questa cellula della microglia, come ci diceva Manzi prima, con questi switch tra forma attiva e quiescente, orienta diversamente il cammino dei neuroni. Microbiota, lo sentiremo, essere olobionti significa capire che siamo una squadra unica con il nostro microbiota. Flora è stata promossa a direttore d'orchestra del complesso sistema psiconeuroimmunoendocrino, e quindi si è capito come tutte queste condizioni che vedete elencate qui siano associate, ci sono numerosissimi studi che mostrano che la disbiosi è proprio correlata a tutti questi disordini. E nell'autismo ecco che la questione della permeabilità intestinale diventa, come poi vedremo, molto importante. L'ultimo aspetto, metabolismo energetico, 87 miliardi di cellule vanno in giro, hanno bisogno di benzina. Non meraviglia quindi che gli aspetti energetici, i mitocondri, siano strettamente correlati a questi discorsi che stiamo facendo. In sostanza quello che avete visto poi nella locandina è il titolo, quindi questo trio. Questi sono tre compartimenti, tre vie maestre che guidano la nostra costruzione e quindi la funzione costruttiva del trio può diventare una funzione distruttiva nel momento in cui questi tre vanno in cortocircuito. E quindi di che cosa parleremo? Di stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, di disbiosi e infiammazione. E come vi dicevo, vanno in cortocircuito, quindi si potenziano reciprocamente. Se ci sono evidenze ormai immense rispetto alla vulnerabilità per il neurosviluppo legata a delle alterazioni della risposta immune dalle fasi iniziali, quindi fin dalla gestazione, questa stessa, che si chiama Maternal Immune Activation, quindi la MIA, la possiamo riferire al BED trio, vedendo quindi come la presenza di queste alterazioni predispongano quindi all'insorgenza di autismo, disturbi della condotta, disturbi neuropsichiatrici, pans pandas, in età successive. Quindi in sostanza, ginecologi, neonatologi e pediatri, lavorare quindi con crescente consapevolezza su questi aspetti che riguardano il microbiota significa creare le condizioni migliori per un neurosviluppo che possa andare, diciamo, si possa svolgere secondo la fisiologia, questo con massimo rispetto della neurodivergenza, ma a condizione che la neurodivergenza non sia il risultato di una negligenza, passatemi un po' il bisticcio di parole. E questa quindi è sempre l'altra figura di quel lavoro dei 35 che vi ho mostrato, che riassume allora quello che vi ho detto. Qui non devo chiudere e concludo, ecco, per quanto riguarda lo stress ossidativo, ricordando che l'energia, quindi la funzione mitocondriale, provvede ad ATP, quindi se manca energia voi avrete stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo, ridotta massa muscolare, deficit di attenzione e anche stizzi. Stress ossidativo significa avere delle membrane cellulari bucherellate in questo modo, significa avere dei globuli rossi che non passano, sono rigidi, non passano nel microcircolo, non portano ossigeno e quindi delle conseguenze a livello neurologico. Significa anche vedere le complicanze nel lungo periodo, per esempio l'Alzheimer. Vivanti ha dimostrato come sia più frequente nelle persone nello spettro autistico, ma se c'è questo bel trio, forse se noi lavorassimo su degli aspetti proprio legati alla biologia, forse potremmo ridurre anche la prevalenza di questi aspetti. Infine, una riflessione sull'autismo, sulle forme regressive e sul fatto che l'evidenza di una neuroinfiammazione nell'autismo deve comunque portarci ad utilizzare anche nelle persone con questa sintomatologia comportamentale quello che vi ho illustrato all'inizio della relazione, cioè un approccio per cui facciamo una serie di indagini, okay? Quindi limitando chiaramente lo studio del liquido glicocefalorachidiano alle situazioni chiaramente più evidenti, ma non possiamo limitarci alla valutazione del comportamento, cioè il fatto che poi clinicamente quella sia una persona autistica non deve assolutamente farci escludere che possa esserci un'encefalite sottostante, ok? E quindi questo lavoro molto interessante appunto sottolinea questo aspetto. Il tempo mio è finito, quindi mi fermo qui, vorrei soltanto darvi uno spunto su quello che quindi è la raccomandazione per la parte clinica. Che cosa portare a casa? Se poi alla fine ve l'ho riassunta con questa diapositiva un po' bambinesca, mi scuso, però il punto è che dietro ognuna di queste icone gialle ci sono veramente tantissimi lavori che quindi stanno sollecitando una attenzione, questa multidimensionalità significa per me per esempio avere una collaborazione costante con nutrizionisti esperti che sappiano anche come interagire con le persone con disturbi dello spettro autistico. Non si può mettere una dieta, dare uno stampato e vai, tanti saluti e grazie. Esperti nella lettura del microbiota, sto cercando di trasformarlo in un insegnamento universitario perché è talmente immenso questo che voglio dire, io credo che debba diventare un insegnamento universitario. Nell'autismo, ecco, questo è un altro lavoro, abbiamo pubblicato, quindi abbiamo fatto questa sintesi della letteratura, individuando quindi dalla gravidanza ai bambini a rischio e poi allo spettro autistico conclamato, delle indagini e degli interventi che appunto sono basati sull'evidenza. E qui una sintesi più fruibile in italiano sulla rivista della Società Italiana di Pediatria scritta con Ernesto Burgio. Spero di non avervi angosciato, molti di questi temi li avete già sentiti, vorrei lasciarvi invece questa come immagine di opportunità. Grazie. Mi ha chiesto il dottor Calvera a fare una riflessione e un aspetto importante che mi è piaciuto è sulla descrizione sull'autismo, sull'aspetto di dividere e differenziare l'autismo da chi ha autismo con determinata storia di sviluppo e chi ha una regressione dello sviluppo. Parte il fatto che dobbiamo essere attenti a capire se è una vera e propria regressione, però la mia esperienza, adesso i bambini di sottospettualismo sono molto diversi, parlo di bambini, perché poi se parliamo di adolescenti e adulti, apriamo un capitolo diverso, perché attualmente li stiamo diagnosticando tantissimo, una volta a settimana è fisso che veniamo a distinguere ambulatorio. I bambini con disturbo autistico sono molto diversi e secondo me vanno inquadrati anche in questo, perché abbiamo un bambino con disturbo spettro autistico che aveva una comunicazione, una grandissima alterazione del canale comunicativo, cioè il linguaggio, la motorizzazione del linguaggio e dei comunicativi, che è migliorato, esploso in una maniera indescrivibile dopo che hanno scoperto che era la celiachia. E lì perciò il pediatra ci deve aiutare, oppure altro caso, 15 giorni fa, chiamato in pronto soccorso, ero in rianimazione per un tentato suicidio, quindi questa era la terapia. Mi chiamano, cioè sento che stanno chiamando gli animatori per sedare una ragazzina autistica che doveva fare un intervento di per un taglio, insomma, doveva mettere dei punti a un taglio al sopracciglio e a questo un intervento di anestesisti, quindi utilizzo la vitamina. Tornare in ambulatorio, stiamo visitando, mi richiamano e mi dicono che devo andare in pediatria perché la ragazzina si sta svegliando un'anestesia e non riescono a contenere. Che facciamo? Chiamo la mia equipe, sento la psicologa, diciamo, beh, prendiamo tempo, decidiamo, diamo dei consigli educativi pediatri e infermieri, e dopodiché la ragazza si calma, prendiamo l'appuntamento un giorno dopo in ambulatorio. Viene la mamma allarmata perché questo taglio in realtà è frutto di un periodo di agitazione della ragazzina improvviso e immediato, e quello che ci racconta è che aveva scoperto che era l'ossione. Allora, noi abbiamo chiamato per dare una terapia psicologica per sedare un comportamento problema. Noi abbiamo preso tempo, abbiamo ascoltato la mamma e abbiamo detto che doveva fare la terapia antiplastica. A volte io spesso dico, ma quando non chiamano gli psicologi, gli psichiatri, i pediatri, perché non metti un farmaco per questo comportamento? Beh, prima diamoci tempo per capire se è una cosa organica. Un altro bambino abbiamo chiamato un flusso gastroesofageo, quella dieta è migliorata. Io non dico che tutto è problema organico, assolutamente sono prima che due farmaci, però in alcuni momenti dobbiamo ascoltare queste mamme e vedere la differenza di questi disturbi. Ma lo confermo, non ho avuto tempo di far mostrare le immagini di bambini autistici con i disturbi organici, soprattutto io mi occupo proprio di questo, quindi sono stata chiamata nei centri per capire dove ci fossero delle spie per sofferenza per disturbi organici. E il punto è che nella formazione professionale rivolta ai pediatri sull'autismo, nella gran parte dei casi si parla della lettura, della diagnosi precoce e molto spesso trovo sorpresa nel sentire che ci sono tutte queste concorrenze così rilevanti, e perciò poi si fa un po' il pacchetto, siccome è autistico tutto quello che fa l'autistico poi fa parte un po' del pacchetto. Quindi magari questa è una proposta che già vi lancio se vi interessa. Io ho trovato molto efficace nella formazione dei pediatri vedere all'opera proprio anche con dei filmati, delle cose tremende che poi se le vedi non te le dimentichi più, ma attiva poi quello sguardo, perché comunque la mente, cioè no, com'era? L'occhio vede quello che la mente conosce, okay? Quindi grazie. Grazie a voi. Allora, un quarto d'ora di riposo, caffè, bigliettino che ci ha dato Annalisa, il bar e quindi frutti. Un quarto d'ora però, perché se no non ce la facciamo. Allora, ricominciamo. Allora, abbiamo un problema, lo dico agli altri due relatori, che dobbiamo chiudere all'1:30. Quindi rispettiamo i tempi per tanti motivi che potete immaginare. Allora, Chiara Maria Palazzi, giovanissima, biologa nutrizionista, che fa una relazione complicatissima. Io quando ho letto il titolo ho detto il sistema immunitario del cervello. No, asse intestino cervello. Io ho sbagliato, asse intestino cervello. Asse intestino cervello. Ho detto è complicatissima, dico, quindi adesso vediamo come ce lo spieghi. Buongiorno a tutti, innanzitutto è un piacere essere qui e ringrazio per questa opportunità, per l'invito. Prima di addentrarci su quello che è appunto l'asse microbiota intestino-cervello, vorrei fare un preambolo ricordandoci che noi non siamo solo uomo. Quindi l'uomo e il suo microbiota intestinale formano un olobionte, quello che si chiama olobionte. Viviamo col nostro microbiota intestinale in un rapporto di reciproco mutualismo, proprio perché noi offriamo loro un habitat e delle condizioni che sono favorevoli alla loro sopravvivenza, e loro d'altra parte, oltre ad aiutarci a digerire cibi che per noi sono complessi, producono anche metaboliti che sono essenziali poi per la salute dell'intero organismo. E infatti sono tante negli ultimi anni le ricerche che dimostrano correlazioni tra uno stato disbiotico, quindi un disequilibrio a livello intestinale del microbiota, con disturbi a carico di altri distretti, di altri organi ed apparati, e anche il cervello. E infatti si parla sempre più spesso di asse microbiota intestino cervello, questa comunicazione sostanzialmente bidirezionale tra il microbiota intestinale appunto e il cervello, che è mediata dal sistema immunitario, dal nervo vago, dal sistema nervoso enterico, dal sistema neuroendocrino e anche dal sistema circolatorio. Sostanzialmente il microbiota intestinale parla con il cervello attraverso metaboliti, neurotrasmettitori ed ormoni, ed alterazioni a carico del microbiota intestinale appunto sono collegate allo sviluppo di disturbi dello spettro autistico, ansia, comportamento depressivo e anche malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. E questa slide l'ho inserita qui un po' per introdurre anche il concetto dell'importanza dell'alimentazione, in particolare della presenza di fibra nella nostra alimentazione e non solo, come poi andremo a vedere, perché la fibra che viene lavorata a livello intestinale dal nostro microbiota, appunto, va a promuovere la produzione di diversi metaboliti, tra cui acidi grassi a corta catena, che correlano con una migliore funzione cognitiva. Infatti, questo è un bellissimo articolo risalente al 2015, il microbiota intestinale è proprio responsabile della regolazione della maturazione e dell'attivazione microbiale attraverso proprio questi acidi grassi a corta catena. Nell'articolo si parla di questi topolini germ free, quindi privi di microbiota intestinale, che mostravano delle alterazioni globali della microglia, che quindi aveva questo fenotipo immaturo, che portava una risposta immunitaria innata compromessa. La ricolonizzazione in questi topolini con un microbiota complesso, proprio perché anche la biodiversità a livello intestinale è importante, più un microbiota intestinale ha una biodiversità alta e più è anche resistente, e ripristinava questa ricolonizzazione parzialmente le caratteristiche microbiali. Qual è la funzione in condizioni di omeostasi della microglia? Neurogenesi, angiogenesi, mantenimento dell'integrità della barriera ematoencefalica, la potatura, il rimodellamento sinaptico, la trasmissione sinaptica, la fagocitosi e la rimozione di neuroni apoptotici e detriti cellulari. Quando la microglia viene sollecitata, cambia la sua morfologia e rilascia delle citochine preinfiammatorie e delle specie reattive dell'ossigeno. E nell'articolo che ho riportato è stato valutato come se l'organismo viene esposto a basse dosi ripetute anche di LPS, si sviluppa quella che in realtà è una tolleranza immunitaria, quindi una minore attivazione microbiale e una minore espressione di citochine proinfiammatorie. Infatti il problema nasce proprio quando l'impulso fondamentalmente è importante e ripetuto, cronico nel tempo. Si sviluppa quella che è una microglia di tipo difensivo, che appunto non è più in equilibrio tra la sua forma proinfiammatoria e la forma antinfiammatoria, rimane continuamente sollecitata e contribuisce a neuroinfiammazione e danno neuronale se appunto la sua attivazione è prolungata nel tempo. Il problema nasce tutto a livello intestinale, proprio perché lo squilibrio del microbiota intestinale, denominato appunto disbiosi, determina quella che è un danno di membrana, che è una barriera che non ha più quindi la sua funzione di dogana e lascia passare sia ciò che deve passare sia ciò che non deve passare. Si determina quello che prende il nome di leaky gut o intestino che perde o comunque intestino permeabile. La permeabilità intestinale determina quindi un riversamento poi nel circolo ematico di componenti batteriche, LPS, appunto lipopolisaccaride, che è una molecola presente sulla membrana dei gram negativi, tossine e altri prodotti di scarto. Entrano in circolo e vanno poi ad attivare il sistema immunitario e determinando un'infiammazione a livello sistemico. Qual è la chiave mancante in questa cosa? Che l'LPS in circolo va ad attivare la proteina C3 del complemento, che poi va ad interagire con il suo recettore sulla microglia a livello cerebrale, e queste microglie iperattivate eseguono una potatura sinaptica eccessiva, con conseguente perdita di sinapsi e alterazioni a livello dei circuiti neuronali legati all'umore e alla cognizione. Mi soffermo un pochettino di più su questo studio. A sinistra il topolino è un topolino con depressione, fondamentalmente, di caratteri tipici depressivi. E quando il microbiota di questi topolini viene trapiantato in topolini germofree, quindi privi di microbiota, oppure topolini che non hanno nel loro microbiota dei patogeni specifici, i riceventi sviluppano dei comportamenti depressivi, insieme all'attivazione che dicevamo del sistema del complemento e la potatura sinaptica eccessiva. Questo per far capire come la disbiosi intestinale in realtà da sola può essere sufficiente ad indurre depressione e neuroinfiammazione. Allo stesso modo poi, se questi topolini vengono trattati con antidepressivi oppure se viene fatto un trapianto di microbiota fecale colonico da donatori che sono trattati con antidepressivi, si osservano miglioramenti comportamentali, un ripristino dell'eubiosi intestinale e una normalizzazione della funzione microbiale. Quindi ciò ci porta a dedurre che ristabilendo un microbiota sano si può interrompere questo circolo vizioso. E qui torniamo a parlare ancora di fibra. Non tutta la fibra è uguale, poi lo andremo a vedere nelle prossime slide. Ad ogni modo il consumo di fibra porta ad un aumento di acidi grassi a corta catena, come dicevamo all'inizio. E questi acidi grassi a corta catena contribuiscono alla regolazione microbiale, spegnendo la neuroinfiammazione. E lo studio che ho riportato poneva a confronto la linolina con la cellulosa. La cellulosa è una fibra insolubile, per cui è scarsamente accessibile dal microbiota intestinale. Infatti soltanto con linolina la produzione di acidi grassi a corta catena era importante. E cosa fanno? Innanzitutto, come riescono ad entrare nel cervello gli acidi grassi a corta catena? Quello che la fa da padrone è la diffusione, in realtà, perché andando a bloccare questi trasportatori MCT, gli effetti antinfiammatori degli acidi grassi a corta catena rimangono inalterati. Nel particolare vanno ad inibire l'istone di acetilasi, quindi ad aumentare l'espressione di geni antinfiammatori e riducendo la trascrizione di geni infiammatori acetilando NFKB. Non è solo la quantità di acidi grassi a corta catena che conta, ma è anche il giusto equilibrio tra loro. E, infatti, in alcune patologie, come per esempio anche nella depressione stessa, sono stati dosati alti livelli di acetato, riscontrati alti livelli di acetato a scapito per esempio di butirrato e propionato, di valerico e di isovalerico. Intestino e cervello comunicano sì con questi metaboliti, ma anche con altre vie, per esempio il nervo vago, per esempio i neurotrasmettitori, proprio perché diversi batteri sono in grado di produrre neurotrasmettitori. Lattobacilli e bifidobatteri, per esempio, riescono a produrre GABA, lattobacilli e bacilli acetilcolina. E non solo neurotrasmettitori riescono a producono anche queste fibre amiloidi extracellulari, che sono, in questo caso parliamo dell'Alzheimer, ho inserito questi studi per sottolineare ancora di più quanto possa essere importante il microbiota intestinale. Alcuni di questi batteri, come le Escherichia coli piuttosto che lo Staphylococcus aureus, sono in grado di produrre queste fibre che hanno una struttura terziaria simile ai peptidi beta-amiloidi e possono, così come i peptidi, attivare il sistema immunitario, favorire la deposizione delle placche a livello del cervello e favorire quindi l'infiammazione neuronale. C'è da dire anche un'altra cosa: in linea generale il microbiota nell'Alzheimer presenta una riduzione di batteri benefici come Firmicutes e Bifidobacterium e un aumento di batteri proinfiammatori, in particolare appartenenti al Filum Bacteroidetes. Però è anche vero che si tratta di una patologia che insorge con l'avanzare dell'età, e con l'avanzare dell'età si assiste anche a un rimodellamento a livello microbico intestinale che va verso, diciamo, uno stato disbiotico. Aumenta la presenza di proteobatteri, diminuiscono i bifidobatteri e quindi si riduce poi di conseguenza anche la produzione di molecole neuroprotettive, come gli acidi grassi a corta catena. Ma ci sono tantissime altre patologie neurodegenerative e non che trovano una correlazione con appunto la disbiosi intestinale, tutte accomunate da un aumento di firmicutes, di batteroides, di escherichia, di shigella, di klebsiella, tutti i batteri comunque pro-infiammatori. E questi sono alcuni pattern microbici che si ritrovano, che si riscontrano in alcuni disturbi, nell'ansia, nella depressione, nel disturbo dello spettro autistico, nella schizofrenia o nel disturbo bipolare. C'è anche una correlazione a livello microbico tra il disturbo dello spettro autistico e la ADHD, in particolare aumento in entrambi i casi della concentrazione di LPS binding protein, quindi che è un marcatore vero e proprio di permeabilità intestinale e che correla positivamente con il rilascio di proteine e di citochine, scusatemi, proinfiammatorie. Nelle pans pandas si assiste a un forte aumento del Phyllum bacteroidetes, in particolare dei generi bacteroides, Odoribacter e Oscillospira, che potrebbero essere in futuro dei possibili probabili marcatori della patologia. E c'è anche qui una minor produzione di acidi grassi a corta catena. A livello alimentare ce ne sono tantissime di modelli che sono stati valutati in letteratura e che hanno dimostrato di avere un effetto anche benefico a livello intestinale, primo fra tutti però la dieta mediterranea. In linea generale sono tutti modelli che contengono anche nutrienti con proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie di base. E sono tutti volti a appunto migliorare quello che è lo stato possibile disbiotico intestinale, cercando di ripristinare l'equilibrio appunto microbico. La disbiosi però da che cosa può essere indotta? Non solo da una dieta sbilanciata, anche l'abuso di antibiotici, piuttosto che il consumo eccessivo di alcol, il fumo, anche lo stress. Sia fisico che psicologico. Tutto questo può determinare, come dicevamo e come abbiamo detto spesso e ripetutamente stamattina, danno di barriera intestinale, maggiore permeabilità, LPS in circolo e tutto quello di cui abbiamo poi descritto. Ed è qui che entrano in gioco un po' quelli che sono gli alimenti funzionali, che sono descritti come qualsiasi alimento che, al di là degli effetti nutritivi, quindi al di là anche del contenuto in proteine, grassi, carboidrati, può avere comunque un effetto benefico su una o più funzioni dell'organismo. E quando in questa definizione ci infiliamo un po' il microbiota intestinale, che fa un pochettino da tramite, possiamo suddividerli un po' così: prebiotici, probiotici e composti bioattivi. In realtà i composti bioattivi sono, dall'ultima definizione data dall'ISAP nel 2017, considerati dei prebiotici, mentre nella prima definizione esclusivamente si pensava essenzialmente alla fibra, nella rivisitazione i prebiotici sono considerati qualsiasi substrato che viene utilizzato selettivamente dai microrganismi ospiti che conferiscono un beneficio per la salute. E va da sé che la fibra è per antonomasia il prebiotico, ma non tutta la fibra, e l'abbiamo visto anche prima quando abbiamo messo a confronto l'inulina e la cellulosa, non tutta la fibra è prebiotica. Per essere prebiotica la fibra deve essere accessibile al microbiota intestinale e deve avere queste caratteristiche qua: resistere all'acidità gastrica, all'idrolisi enzimatica, all'assorbimento nel tratto gastrointestinale superiore, deve essere quindi poi fermentata dal microbiota intestinale, quindi essere accessibile, e stimolare la crescita o l'attività di batteri intestinali potenzialmente associati alla salute o al benessere. Quindi in linea generale si parla spesso di inulina, di amido resistente, di FOS e di GOS. Amido resistente in particolare l'amido di tipo 3, quello retrogradato, che ha un forte potere prebiotico. Che cosa fa la fibra? L'abbiamo detto più volte, porta alla produzione, alla sintesi di acidi grassi a corta catena a livello intestinale, promuove l'integrità di barriera, soprattutto grazie al butirrato che viene metabolizzato proprio direttamente, che è uno degli acidi grassi che vengono prodotti, viene metabolizzato direttamente nell'epitelio intestinale e promuove la proliferazione di batteri probiotici, bifidobatteri e lattobacilli principalmente. Parlando di fibra non si può non citare la dieta mediterranea, che non è solo però ricca di fibra con cereali integrali, legumi e quant'altro, ma anche di vitamine e composti bioattivi come i polifenoli. E questa immagine l'ho inserita perché veramente a colpo d'occhio si riesce a capire quello che può essere l'impatto di un'alimentazione di stampo mediterraneo piuttosto che un'alimentazione che, ahimè, si fa di cui se ne fa largo uso oggi, quindi la classica western diet, ricca di zuccheri semplici, ricca di carni rosse, carni processate, ricca di additivi, ricca di junk food e anche una caratteristica, uno squilibrio tra omega 6 e omega 3. Tutto questo si traduce in una disbiosi a livello intestinale con conseguente permeabilità aumentata e endotossemia e infiammazione. E, una maggiore diversità a livello microbico, e quello che dicevo poi all'inizio, è associata a una maggiore stabilità e resistenza ai cambiamenti alimentari, cioè più una biodiversità a livello microbico è alta e più il mio microbiota è stabile ed è resistente a qualsiasi cambiamento alimentare. Poi è anche vero che ci sono delle caratteristiche che variano da batterio a batterio, alcuni batteri reagiscono più rapidamente a cambiamenti alimentari mentre altri si adattano più lentamente. Anche le vitamine hanno un impatto molto interessante a livello intestinale, la carenza di alcune vitamine porta a un incremento di permeabilità intestinale, a un incremento di proteobatteri, che sono batteri comunque proinfiammatori, e a una riduzione per esempio dell'espressione di occludine e claudine che fanno parte insomma delle tight junction, quindi anche qui permeabilità aumentata e tutte le conseguenze del caso. I polifenoli sono lo stesso molto studiati, e una dieta ricca di polifenoli sembrerebbe promuovere la crescita di batteri come Bifidobacterium e Lactobacillus, e tra l'altro i flavonoidi, grazie alla loro azione antinfiammatoria, contribuiscono a contrastare la neuroinfiammazione. I flavanoli lo stesso sono molto studiati, in particolare i flavanoli del cacao, anche qui incremento di lattobacilli, bifidobatteri e allo stesso tempo una riduzione di, per esempio, di Clostridium perfringens e altri patogeni. Gli antociani lo stesso, sono molto studiati per la loro capacità di ridurre la neuroinfiammazione diminuendo le citochine proinfiammatorie e i radicali liberi. E qui ho riportato questa tabella dove sono presenti diversi nutraceutici, per esempio il tè verde, per esempio la curcumina, il resveratrolo, che hanno comunque un impatto sul positivo su alcune specie, oltre a Bifidobacteri lactobacilli, anche a Kermansia, Fecalibacterium prausnitzii e Roseburia, che sono tutti produttori comunque di acidi grassi a corta catena, in particolare di butirrato. Anche gli omega 3 e l'equilibrio quindi tra omega 3 e omega 6 è molto interessante perché gli omega 3 riescono ad indurre lo stesso la proliferazione di bifidobatteri e ridurre quella di enterobatteri. Infatti possono essere utili anche nel ristabilire l'equilibrio microbico intestinale, per esempio dopo una terapia antibiotica. E arriviamo ai probiotici. I probiotici sono microrganismi vivi che, se somministrati in quantità adeguate, conferiscono un beneficio per la salute dell'ospite. Li possiamo ritrovare ovviamente come integratori, ma anche negli alimenti fermentati, che in realtà fanno parte un po' anche della dieta mediterranea, solo che sono poco utilizzati e poco conosciuti. Anticamente la fermentazione veniva utilizzata come una tecnica di conservazione, essenzialmente, e anche come una tecnica per rendere commestibili alcuni alimenti, per esempio pensiamo alle olive che per via dei loro contenuti in oleuropeina non sarebbero commestibili senza appunto questo processo di fermentazione. Ad oggi sappiamo che sono alimenti ricchi di probiotici, prebiotici e composti bioattivi e che oltre a migliorare comunque il gusto e la conservazione svolgono anche un ruolo cruciale nella salute intestinale. Gli alimenti fermentati sono definiti, sempre secondo l'ISAP, come qualsiasi prodotto, alimento, bevanda attraverso la crescita microbica, prodotto attraverso la crescita microbica controllata e la conversione di componenti alimentari attraverso l'azione enzimatica. non tutti gli alimenti fermentati in realtà contengono probiotici, quindi contengono microrganismi vivi. Se pensiamo ai prodotti che vengono fermentati ma che poi sono sottoposti a cottura piuttosto che a pastorizzazione, va da sé che non hanno più la componente probiotica. In realtà però, per esempio, è stato fatto uno studio che non ho riportato per motivi di tempo, però sui crauti. Anche i crauti pastorizzati in realtà avevano poi portato un beneficio a livello intestinale su ceppi benefici come bifidobatteri e lattobacilli, quindi ha ragione del fatto che l'attività prebiotica potrebbe anche bastare o comunque potrebbe in alcuni casi prevalere rispetto alla componente, insomma, probiotica, e quindi all'attività probiotica vera e propria. In linea generale, la fermentazione porta a un miglioramento della digeribilità dei cibi, un aumento della biodisponibilità di alcuni nutrienti come calcio e polifenoli, una riduzione per esempio di lattosio piuttosto che di antinutrienti, piuttosto che di FODMAP, e una produzione di composti bioattivi. Qui ho inserito una carrellata un po' di prodotti tra quelli che possono essere anche più conosciuti, come per esempio il kefir e la variante kefir d'acqua e il kombucha. In linea generale tutti i prodotti lattiero-caseari fermentati correlano con un rischio ridotto di sviluppo di diabete di tipo 2, un rischio ridotto di ictus piuttosto che di sindrome metabolica. Al kefir in particolare vengono associate diverse proprietà antidiabetiche, antimicrobiche, antivirali, antiallergiche, antipertensive, antiossidanti. E a livello intestinale, andando a promuovere sempre lattobacilli, lattococchi e bifidobatteri, vanno a creare, grazie al rilascio poi alla produzione di acido acetico e acido lattico, derivante appunto dalla crescita e dalla proliferazione di questi batteri, vanno a creare un ambiente che non è favorevole per la crescita di batteri patogeni, proprio perché ha un'acidità aumentata. Il kefir d'acqua è appunto l'alternativa al classico kefir di latte, anche questo porta a un incremento in particolare delle specie bifidobatterium e una produzione aumentata di acidi grassi a corta catena di conseguenza. Il kombucha è un tè fermentato essenzialmente, può essere tè verde o tè nero, e in tutti questi prodotti vengono comunque utilizzate delle colture simbiotiche sia di batteri che di lieviti differenti, quindi sia nel kefir di latte vengono utilizzati dei granuli appositi, granuli di kefir, nel kefir d'acqua vengono utilizzati altri granuli che sono chiamati tibicos, e qui invece si utilizza lo scoby. Anche al kombucha sono attribuite diverse proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antitumorali, ipotensive, eccetera. E a livello microbico lo stesso porta un incremento in particolare di Akkermansia subdoligranulum, che sono due specie correlate con una maggiore sensibilità insulinica e una riduzione dell'infiammazione. Anche le verdure fermentate, crauti e kimchi, sono importantissimi per la salute intestinale, portano in particolare all'incremento di Prevotelle, Bacterium, Fecalibacterium prausnitzii, tutte specie anche queste che poi producono acidi grassi a corta catena e principalmente butirrato. E anche la frutta si può fermentare, quindi i succhi di frutta, io ho riportato l'esempio del succo di mela, può essere fermentato anch'esso. E tra l'altro la fermentazione porta a una riduzione di tutti gli zuccheri, in particolare del fruttosio. Gli alimenti fermentati, per chiudere un pochettino il cerchio e per raggruppare quelli che possono essere i benefici comuni, portano un arricchimento dell'alimento in vitamine, aminoacidi e acidi grassi bioattivi, una maggior produzione di acidi grassi a corta catena a livello intestinale, una miglior diversità a livello microbico, proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, e hanno anche un ruolo nella prevenzione di alcune malattie croniche. Qui ho riassunto con questa tabella quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi l'importanza del microbiota e l'importanza di curare poi il microbiota intestinale attraverso, principalmente ho parlato appunto di alimentazione, una dieta ricca in fibre, una dieta prevalentemente di stampo mediterraneo, e la limitazione di zuccheri semplici, di acidi grassi saturi e anche l'utilizzo di probiotici e di alimenti fermentati. Termino con questa slide perché non è importante solo l'alimentazione, ma anche curare il sonno e l'attività fisica possono essere due fattori determinanti sia nel benessere intestinale, quindi a livello di ubiosi intestinale, mantenimento dell'ubiosi intestinale, sia proprio nelle neuroinfiammazioni. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Stretto. Anche perché sei stato preciso. Però mi sono messo, ho pensato che forse non mangio molto bene. Però vabbè, dopo anche queste faccio tante cose che non vorrei fare, quindi questa non è un'altra. Bene, allora, dottor Capone, ultimo ma non ultimo, la sua importanza della relazione fondamentale per il ruolo neuropsichiatrico che riveste. Per aver partecipato attivamente, e mi hanno detto anche economicamente, all'organizzazione dell'evento, vabbè, però l'ha detto e ti ringraziamo per questo. Il tuo tempo a disposizione. Ovviamente hai il ruolo del neuropsichiatra. Buon pomeriggio a tutti, ormai avete assistito. A me è stato assegnato questo compito, cioè definire qual è il ruolo del neuropsichiatra. Mi confesso che sono 45 anni che vi faccio questa domanda, perché tutte le volte che penso di aver raggiunto una probabile risposta mi ritrovo con tutte le carte disordinate e devo ricominciare da capo. Però non vi devo parlare della mia vita, vi devo parlare di una malattia che per la maggior parte dei miei colleghi non esiste. Non esiste perché ci si è dimenticati che c'è una letteratura. Questo se riuscite a leggere l'anno di pubblicazione del 1800, 89. Ed è una traduzione di un volume che risale a 2 anni prima. Alla pagina 449 proviamo a leggere quello che c'è scritto. Sintomi. Sta parlando della corea reumatica. Solo di rado insorgono all'improvviso fenomeni di corea. Prima si ha da aspettarsi questo dopo spavento o eccitazione psichica. Di regola precedono ad essa per giorni o settimane dei problemi. Questi si manifestano con irritabilità, insolita, cattivo umore, tristezza, apatia, ripugnanza all'attività corporea e intellettuale, debolezza di memoria, mancanza di appetito, irregolarità di defecazione, sonno inquieto, aspetto pallido, spesso anche con dolori insorti nella colonna vertebrale, nelle estremità, nelle articolazioni, cefalalgia, senso di pressione al capo, preoccupazione, frequenti vertigini e simili. I parenti sanno che per lo più che il fanciullo non si sente proprio bene, ma poi essi non riescono a capire di che cosa si tratti. Li avete ascoltati i sintomi che vi sono stati illustrati questa mattina? Sono qua. 1880. La pubblicazione di questo volume è addirittura precedente alla scoperta della penicillina. Siccome sono uno che vuole in qualche modo andare a cercare anche le cose più strane, ho scoperto che la penicillina l'aveva trovata questo dottor Vincenzo Tiberio dell'Università di Napoli. Purtroppo le sue ricerche non vennero ritenute interessanti dall'ambiente scientifico italiano. E caddero nell'oblio e vennero riscoperte solo 40 anni dopo la sua morte. Dopo c'è Alexander Fleming che con la sua pubblicazione del 1929 dove parlava della penicillina. E adesso arriviamo un po' alle caratteristiche di questa malattia. C'è una, è stato detto che la diagnosi prevalentemente è una diagnosi clinica, poi se uno vuol fare degli accertamenti possono anche essere utilizzati. Se si tratta di una patologia che ha un'espressione prevalentemente clinica, dobbiamo cercare di capire i sintomi, quali sono. E c'è una tassonomia di questi sintomi, quindi non state a leggere, non è un riassunto. Vi chiedo solo di guardare questo aspetto, cioè sintomi neurologici, sintomi psichici, sintomi somatici, sintomi neuropsicologici. Che differenza c'è fra uno e l'altro? Nella maggior parte dei casi in questi bambini trovi sintomi che sono presenti in tutte queste quattro classificazioni. Forse è più utile semplicemente avere un'unica tabella dove ti dice che cosa devi andare a cercare, che domande fare, che cosa pensare, perché sono comparsi questi sintomi, in che occasione sono comparsi questi sintomi. Che cos'è che li giustifica? Sempre mantenendo un occhio legato alla storia di questa malattia, anche nella mia professione clinica, mi sono trovato a dover cambiare spesso anche il nome di questa che poi alla fine è un unico grosso problema che è la neuroinfiammazione. Qui vedete che già nel 1936 ci sono delle modificazioni del comportamento conseguente a lesioni cerebrali. Encefalite reumatica con attività ipercinetica nei bambini, disfunzione minima cerebrale. L'ultimo è Minimal Brain Dysfunction di Togo, con cui ho avuto la fortuna di lavorare in Olanda. Siamo nel 1978. Cioè, la ricerca anche delle motivazioni di questi cambiamenti del comportamento, di questi sintomi, c'è sempre stata. Nel 98 finalmente arriva il lavoro di Susan Swinburne. Più recentemente, nel 2019, ci troviamo con questa pubblicazione. L'influenza della neuroinfiammazione nel disordine dello spettro autistico. Nel 2021, disfunzioni immunologiche nella sindrome di Tourette e disordini correlati. Quindi qualcuno ha cominciato anche a capire che certe patologie, definite solo sulla base del sintomo, potevano avere un'eziopatogenesi importante, comune se non altro. Mancano le evidenze scientifiche di questa malattia. Questo è quello che sono riuscito a tirare fuori da PubMed sulla letteratura scientifica della PANDAS. Ovviamente facendo un filtro, perché se mettete PANDAS probabilmente vi arrivano 11.000 pubblicazioni scientifiche, ma la maggior parte sono legate al panda minore o al panda maggiore, che non c'entra niente. Se fate un filtro su Human trovate questo. Negli ultimi 10 anni ci sono 700 pubblicazioni scientifiche, quindi non mancano i dati scientifici. E non mancano anche i conoscenti ufficiali, l'avete visto, il CD11 finalmente l'ha classificata, ma anche Orfane l'ha messa nel proprio casellario, diciamo così, e gli ha assegnato un codice. Ecco una cosa con cui mi sono dovuto confrontare come neuropsichiatra infantile. Le interazioni farmacologiche. Molto spesso mi trovavo di fronte a bambini che erano già in qualche modo in trattamento con altri farmaci e se mi trovavo di fronte a una condizione di infiammazione dovevo pur cercare di combattere l'infiammazione, quindi utilizzare FANS, utilizzare corticosteroidi, utilizzare antibiotici. E allora mi sono affidato a questo che vedete, meds che già intervention c'è. Ve lo consiglio, perché io vi faccio vedere le interazioni farmacologiche fra due principi. Non è frequente trovarsi con bambini che stanno facendo terapie con cocktail farmacologici e andare a cercare di capire cosa succede quando invece che due principi attivi contemporaneamente sono presenti nella terapia che ci sta facendo e ne devi aggiungere qualcun altro, tipo appunto un antinfiammatorio o un antibiotico. Allora mi sono fatto queste tabelle, adesso non ho memorizzato, vi faccio vedere semplicemente come per esempio l'azitromicina, che è stata in qualche modo spiegata molto bene da Manzi questa mattina, è incompatibile, o meglio, ha un'interazione farmacologica con questi farmaci, aripiprazolo, clozapina, aloperidol, qualcuno sa ancora aloperidol, comunque, quetiapina, risperidol. C'è qualcosa che ti rende difficile mettere insieme una terapia con azitromicina quando stanno già prendendo farmaci di questo tipo. E la stessa cosa succede con altri farmaci. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, sono tutti farmaci che la maggior parte di questi bambini, dal momento che è stata fatta una diagnosi di disturbo neuropsichiatrico, stanno già prendendo. E non ne stanno prendendo uno solo. Voglio farvi vedere soltanto un paio di video, e qui permettetemi, cioè, ho il consenso a presentarvi questi video da parte dei genitori o dei diretti interessati. Ovviamente questi video possono essere utilizzati solo se uno sta facendo un lavoro di formazione. E spero di poterlo attivare questo. Ecco. Questa è una ragazza che 2 anni fa ha conseguito la laurea in farmacia. Questo video è di 4-5 anni fa. Con questa patologia ha fatto il giro delle 7 chiese, era stata in tutti gli istituti neurologici. La diagnosi è stata disturbo di conversione, detta volgarmente isteria. Forse perché era una donna. Questa è più recente. Ah, dimenticavo che la collega, perché ormai è una collega, si è curata da sola. Ha preso la penicillina da quando prende la penicillina. I sintomi sono scomparsi. Si è laureata in farmacia con una tesi sulla penicillina. Scusate, sono raffreddato. Questa è recente. È una condizione con cui ho avuto a che fare la settimana scorsa. Anche questa in ospedale hanno fatto tutto quello che potevano fare dal punto di vista degli accertamenti. Alla fine anche questa persona ha avuto la diagnosi di disturbo di conversione. Quando mi ha contattato la mamma mi ha chiesto di fare un accertamento, fare qualche esame per cercare di capire che cosa potesse essere. È risultata positiva al micoplasma pneumonia. Da quando sta prendendo la citromicina, la situazione è sensibilmente migliorata. Questa è la stessa. È molto più lungo questo video, non ve lo faccio vedere tutto perché ormai siamo già in ritardo. Per questi sintomi non sono mai riusciti a stabilirne una causa se non quella di disturbo di conversione, isteria. È una ragazzina adolescente, quindi ci stava bene questa cosa. Io mi fermo qua, perché tutto quello che avete visto è la causa, è il motivo del fatto che io ancora oggi, dopo 45 anni, non so che cavolo devo fare come neuropsichiatra. Potrei riassumere tutto in due parole. Questa è la realtà. Se non trovo una logica dal punto di vista eziopatogenetico che mi dice perché certi sintomi ci sono, perché compaiono improvvisamente, perché si attenuano con gli antinfiammatori e non con i fitofarmaci, è questo il dubbio che costantemente, tutti i santi giorni della mia vita, mi accompagna quando devo ragionare sul perché un neuropsichiatra di famiglia deve avere a che fare con questo tipo di patologia. Grazie. Non potrei fare un splendido. Allora, domande se ne avete per gli ultimi due relatori, perché il tempo ce l'abbiamo, quindi calmi, perché se no loro ti dici che dovevamo finire all'1:30 abbiamo finito, siamo stati bravissimi, abbiamo 5 minuti per chiedere qualcosa a loro e poi fare un ultimo sacrificio che è quello dei quiz. Prego, aspetta, vieni qua, se no. Buongiorno, Pietro Campanaro, sono un professionista fitoterapeuta. Allora, ho ascoltato con molto interesse le relazioni degli ultimi due lavori, anche degli altri, però volevo chiedere alla dottoressa, quando mi vengono proposte di fare dei programmi alimentari per un problema neurologico, per un problema di Alzheimer, mi arrivano delle indicazioni spesso dal neurologo di fare delle diete chetogeniche assolutamente senza carboidrati, perché comunque possono interferire negativamente. Io invece sono un po' più, come diceva, per la dieta mediterranea, ricca di molina, di tanta cicoria, di tanti crauti e così via. Volevo sapere il suo parere. Sì, io sono tra virgolette fan della dieta mediterranea, nel senso poi da quando sono ecco, studio l'impatto anche di tutti quelli che sono i polifenoli e le fibre che abbiamo visto a livello microbico è strepitosa fondamentalmente. Però è anche vero che d'altra parte ci sono diverse evidenze in letteratura come la dieta chetogenica abbia un impatto positivo su diverse patologie anche di tipo neurodegenerativo, non solo sull'Alzheimer, anche sul Parkinson. Io sono molto attinente alla letteratura, per cui non mi va di espormi troppo né da un lato né dall'altro. E io penso che comunque brevi periodi, infatti in una slide dove avevo mostrato tutta una serie di diete c'era anche la dieta chetogenica. E secondo me è proprio che ancora dobbiamo capire bene quello che è l'indirizzo giusto. Cioè, poi penso che ogni caso sia a sé e il test del microbiota ha portato anche alla luce diversi aspetti, proprio perché non tutti poi rispondono anche con la stessa alimentazione. Io mi fermo qua, cioè non so, sulla base delle evidenze scientifiche, poi ripeto, ci troviamo d'accordo sulla dieta mediterranea. Grazie. Però il microfono. Sì. No, io volevo aggiungere una cosa, che appunto il team del quale fa parte la dottoressa praticamente ha in carico quasi tutti i pazienti pediatrici pan-spandas e quindi l'intervento dietoterapico è proprio ad persona, perché tutti noi abbiamo visto, tutti noi genitori, no, che ci siamo affidati alla multidisciplinarietà, perché poi abbiamo visto i nostri figli in remissione, per cui abbiamo detto forse no, ha ragione, no, non c'era un protocollo, ce lo siamo inventato guardando a Stanford, perché la clinica di Stanford che noi abbiamo contattato, eccetera, cosa fa? Fa proprio la approccio multidisciplinare, quindi ok, terapie classiche e poi l'intervento dietoterapico a persona con proprio l'esame del microbiota. Ecco, loro hanno, non so più quanti casi, però quasi tutti, noi ci affidiamo al team, perché per adesso non c'è nulla. Ecco, per esempio, il tavolo di lavoro tecnico, tra i papers, tutta la relazione, guardando, ci sono esami di primo, secondo, terzo livello, e anche hanno proposto, per quello che potevano, perché non potevano inserire l'esame di microbiota, però colonina, la cotettina, per cui se vai in corso... Sì, altre domande? Chiara? Nessuno? Ah, un piccolo a considerazione per lui. Io, una cosa bellissima hai detto, mettersi in discussione. E questa è una dota. E quello che io faccio, devo dire, allora, credo che un medico rimanga tale se si mette in discussione anche dopo 45 anni di lavoro. E è un consiglio forse che do ai giovani, almeno giovani, forse meno, però il fatto che un medico riesca a mettersi in discussione nonostante l'esperienza che ha accumulato negli anni di lavoro, eccetera, credo che sia un'onestà interiore che è una grandissima dote. Quindi, grazie. Detto questo, come organo organizzatore, organo scientifico, eccetera, eccetera, devo concludere. Dovrei essere molto più lungo, sarò sintetico anch'io. Però abbiamo fatto due passi avanti, credo, no? Abbiamo riflettuto sulla presenza di una malattia che forse non tutti conoscevamo bene. Ne sappiamo poco, perché poco se ne sa di questa patologia. Ci metteremo forse in discussione quando troveremo bambini che cambiano umore, eccetera, eccetera, tutto quello che avete sentito, e un campanello nel nostro cervello ci è: ma se fosse? Ecco, già se noi riusciamo a dire ma se fosse, allora abbiamo già guadagnato una giornata di aggiornamento scientifico. Credo che Donatella, che ringrazio, Stefania, che ringrazio, siano stati importanti per l'organizzazione di questo evento, soprattutto per stimolare me in primis, l'amministrazione pubblica, cioè il comune con Lidia, ma soprattutto voi a venire qui. E ringrazio anche l'Ordine dei Medici, perché è stato veramente importante per quello che riguarda tutta l'organizzazione e tutta l'accreditamento. Grazie a tutti. Buongiorno, siamo qui con il dottor Capone, uno dei principali relatori del convegno neuropsichiatra infantile. Dottore, siamo lieti di sapere che il suo impegno si estende al poliambulatorio d'archivio di Giulianova, assieme anche alla dottoressa Palazzi e al dottor Manzi. Qui diciamo, è nato il primo centro diagnostico multidisciplinare, punto di riferimento per tutte le famiglie del centro Italia. Lei, assieme al dottor d'archivio, è stato il primo a garantire la sua disponibilità a sostegno di questo importante servizio, e questo rafforza l'importanza del suo ruolo sul territorio. Qual è il primo segnale o la combinazione di sintomi che dovrebbe spingere un pediatra o la scuola a richiedere una consulenza neuropsichiatrica per il sospetto di una neuroinfiammazione pans pandas? Generalmente la cosa che più dovrebbe in qualche modo stimolare l'attenzione non soltanto degli insegnanti, ma anche dei genitori, è il cambiamento improvviso, repentino del comportamento dei bambini, che dall'oggi al domani possono cambiare completamente modo di agire, per cui diventano irascibili, perdono la pazienza facilmente, cominciano ad avere una sintomatologia anche importante dal punto di vista neurologico, come i tic, i disturbi ossessivo compulsivi. Ma tutta questa sintomatologia compare all'improvviso e non ha una relazione stretta con un'infiammazione recente. Potrebbe benissimo essere legata a infiammazioni pregresse. Questa condizione spesso mette nel panico i genitori o gli insegnanti o gli insegnanti. E allora si richiede appunto un intervento o del pediatra o dello psichiatra infantile per cercare di dare un nome a questo problema e cercare di trovare anche una soluzione possibile, perché le soluzioni ci sono se uno riesce a fare una diagnosi tempestiva e accurata, insomma, non è difficile. Grazie. E qual è secondo lei il ruolo più importante del neuropsichiatra nel supporto emotivo e psicoeducativo del bambino e della sua famiglia, al di là ovviamente della gestione dei sintomi? È una domanda molto complessa, perché i neuropsichiatri infantili spesso sono in qualche modo dirottati dalla natura dei sintomi verso patologie o psichiatrico, e quindi di conseguenza agiscono anche con interventi che possono in qualche modo trovare una ragione nella, diciamo anche nella gravità dei sintomi cosiddetti psichiatrici. Il ruolo più importante relativamente a questo tipo di disturbo è quello di saper interpretare bene questi fenomeni, perché molto spesso non hanno niente a che fare con una patologia psichiatrica. E se non c'è una patologia psichiatrica alla base, non c'è alcuna ragione di dover affrontare il discorso con farmaci che non sono adeguati, perché farmaci che agiscono esclusivamente a livello di controllo dei TIC, tanto per dirci, cioè dei disturbi ossessivo compulsivi, quindi farmaci cosiddetti generalmente psicofarmaci, spesso sono inefficaci, cioè non modificano la natura e la gravità dei sintomi. Se ci si mette nella condizione di dire è possibile un'alternativa al riconoscimento di patologie cosiddette psichiatriche, e si va a cercare la direzione nell'ambito dei problemi neurologici, soprattutto problemi neuroimmunologici, che saranno probabilmente i problemi da affrontare nel futuro, allora questa condizione diventa più chiara dal punto di vista del sepatogenetico, e si modifica anche l'atteggiamento clinico, nel senso che a quel punto il ricorso a farmaci, che non sono psicofarmaci, ma sono farmaci antinfiammatori, addirittura antibiotici, spesso volentieri, se non risolve la situazione, la modifica è positivo. Quindi c'è una risposta che invece con altri farmaci difficilmente si riesce ad ottenere. Quindi alla fine il ruolo del neuropsichiatra fondamentalmente è quello che credo che sia il ruolo di pertinenza di ogni medico, cioè rimanere ancorati al progresso che le scienze, le neoscienze, ma tutte le scienze medica fa, e non restare semplicemente adattati su situazioni che sembrano essere consolidate, ma che proprio l'attività scientifica, le pubblicazioni scientifiche sono lì che mettono in crisi progressivamente la modalità con cui questa patologia si presenta. Fondamentalmente quello che serve è mantenersi aggiornati sui canali ufficiali, che sono quelli che ti danno la possibilità di capire che stai che hai a che fare con risultati scientifici, non con delle ipotesi che non esistono. Grazie ancora, professore, per la sua disponibilità e per il suo prezioso contributo. Buon lavoro. Grazie. Sabato 25 ottobre ci troviamo a Giulianova presso la Sala Congressi Buozzi in occasione di un importantissimo convegno volto a sensibilizzare ed informare circa due sindromi neurologiche ancora purtroppo non riconosciute a livello nazionale, raramente diagnosticate, la PANS e la PANDAS. Qui con noi l'assessore alle politiche sociali Lidia Albani. Buongiorno assessore. Buongiorno. Sappiamo che oltre a questo importantissimo convegno in programma anche un'importante campagna di sensibilizzazione all'interno delle scuole. Può parlarci più nello specifico di questo progetto? Sì, esattamente. A settembre, quindi all'avvio dell'anno scolastico, abbiamo inviato una nota alle nostre dirigenti scolastiche proprio per sensibilizzare su questa sulla sindrome PANS e sulla sindrome PANDAS, e l'obiettivo è quello proprio di organizzare un convegno dedicato esclusivamente agli insegnanti, agli assistenti educativi, agli educatori comunque in generale, che sono a contatto quotidiano con i ragazzi, al fine di dare loro la possibilità di capire quali sono quali potrebbero essere i primi sintomi o comunque i primi campanelli di allarme, e quindi indirizzare magari la famiglia a fare un approfondimento. Grazie, grazie e buon lavoro, grazie assessore. A voi, grazie. Buongiorno, qui con noi abbiamo la dottoressa Cristina Panisi, relatrice del convegno, pediatra specializzata in immunopatologia e dottoressa di ricerca in psicologia e neuroscienze. Dottoressa, buongiorno e grazie per averci concesso questa intervista. A voi. Lei parla dei primi 1000 giorni di vita. Perché questo periodo è così importante per lo sviluppo del cervello del bambino? Questo è un periodo fondamentale per la costruzione di ciò che siamo, quindi non soltanto del cervello. È il periodo in cui ciascuno di noi costruisce la cassetta degli attrezzi che servirà per affrontare la vita una volta nato. Quindi è in questa fase che i nostri geni vengono accesi e spenti in funzione delle informazioni che si ricevono dall'ambiente attraverso il corpo materno, e sulla base quindi di questa costruzione avverrà e verranno guidati i neuroni nella costruzione delle reti neuronali, e da questo quindi dipenderanno tutti i nostri comportamenti, le nostre emozioni, il funzionamento cognitivo, insomma tutte le funzioni. Quindi i primi 1000 giorni, cioè gravidanza e i primi 2 anni di vita, sono veramente fondamentali per le basi della nostra salute e i rischi di malattia. Grazie. E un'altra domanda. Qual è la relazione esatta tra la disbiosi neonatale e l'innesco di processi neuroinfiammatori che possono manifestarsi anche a distanza di anni in età evolutiva? Dunque, intanto per disbiosi si intende uno squilibrio delle popolazioni microbiche che sono all'interno del nostro corpo e con le quali noi siamo in sinergia. Bene, si è visto negli ultimi anni che l'equilibrio di questo microbiota è fondamentale per dare istruzioni al nostro sistema immunitario e aiutarlo a distinguere tra ciò che deve essere tollerato e ciò verso cui bisogna reagire. Pertanto, se questa palestra iniziale a causa di uno squilibrio delle popolazioni microbiche è una palestra che crea un cattivo allenamento, ecco che le conseguenze poi appunto in questa cassetta degli attrezzi della risposta immunitaria si potranno vedere nell'arco di tutta la vita, quindi anche manifestazioni neuroinfiammatorie. Grazie dottoressa per la sua disponibilità e per il suo prezioso contributo. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno, con noi il dottor Calafiore, tra i principali organizzatori del convegno, medico specialista in pediatria ed allergologia, nonché consigliere presso il comune di Giulianova. E, dottore, perché è così cruciale focalizzarsi sulla diagnosi precoce e sugli interventi tempestivi delle neuroinfiammazioni come la PANS e la PANDAS? E quali rischi si corrono se non si interviene in tempo? Ma è importantissimo per tutte le patologie che hanno un'evolutività. Poter diagnosticare in anticipo, prima che avvengano le complicazioni. Il problema della sindrome della PANS, PANDAS, è che è una neuroinfiammazione, per cui il danno è neurologico. È difficile poi recuperare una volta che il danno è avvenuto. Quindi fondamentale è la diagnosi precoce, bloccare questa evolutività e quindi poter evitare poi la cronicizzazione della patologia con un danno neurologico, ovviamente. Il convegno è accreditato per 4 crediti ECM per medici chirurghi. Qual è l'importanza di questo tipo di formazione per la classe medica? È fondamentale, abbiamo avuto una grandissima adesione dei pediatri di famiglia, che ovviamente ringrazio, e anche dei medici di medicina generale, proprio perché c'è molto interesse intorno alle patologie rare, e rimane sempre un concetto fondamentale: la patologia, se la conosci, la diagnostichi, se no, altrimenti no. E quindi hanno accolto con molto piacere l'organizzazione di questo evento, proprio per la caratteristica della sindrome, che permette poi, una volta diagnosticata, una evoluzione per il paziente diversa. Grazie ancora per il suo prezioso contributo e buon lavoro. Grazie a te. Grazie.